Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er in Südtirol war, aber wohin? Er hat auch eigentlich die Italiener nie sehr geschätzt. Menozzi, che era prevista per domani pomeriggio, questo anche allo scopo, come è stato già spiegato, di lasciare libero il pomeriggio di domani per l'uso che ciascuno di noi vorrà fare del proprio tempo, visto che anche sembra che il tempo atmosferico si sia messo decisamente al bello, quindi forse è sperabile che domani ci sia la possibilità di fare qualche escursione o passeggiata in montagna. Devo anche comunicare che la relazione del professor Menozzi porta un titolo che è leggermente mutato e ampliato, direi mutato in meglio rispetto al titolo originario, che suona gli orientamenti della cultura cattolica nell'età del Kulturkampf. Quindi si presenta con un obiettivo di interesse più ampio che riguarda l'insieme della cultura cattolica, anche se presumibilmente Menozzi farà alcune scelte, indicherà alcune linee preferenziali di studio e di indagini. Due parole sulla figura del relatore che, oltre che essere qui presente, studioso di storia della Chiesa, docente titolare della cattedra di storia della Chiesa presso la facoltà di Lecce, formatosi alla scuola bolognese Giuseppe Alberigo e del Centro di Scienze Religiose di Bologna, è redattore, anzi se non sbaglio caporedattore di una rivista, di una delle più importanti e diciamo pure delle poche riviste di storiografia religiosa che esistono in Italia, che porta il titolo di Cristianesimo nella storia, una rivista che ormai si è affermata come uno delle voci più significative sul piano della produzione storiografica internazionale circa questi argomenti. I suoi studi in particolare hanno riguardato, abbracciano un arco di tempi e di interessi molto ampio. Se mi permettete un ricordo personale, ci conoscemmo quando lui ancora stava lavorando alla sua tesi di laurea e studiava la situazione della diocesi di Torino all'epoca della prima industrializzazione, quindi diciamo il rapporto tra sviluppo, problemi dell'evangelizzazione, dell'organizzazione ecclesiastica, dei problemi religiosi in un contesto di trasformazione, di rapida trasformazione economica e sociale di tipo industriale, e ha poi proseguito le proprie ricerche, soprattutto concentrando i suoi interessi in una prima fase in direzione dell'epoca rivoluzionaria, della rivoluzione francese, su cui ha pubblicato alcuni studi fondamentali e molto citati dalle principali riviste internazionali che si occupano di questi argomenti, intorno ai problemi, diciamo in senso generico o generale, dei problemi religiosi posti dalla rivoluzione francese, i rapporti insomma tra cristianesimo e rivoluzione, e ha continuato i propri studi sull'asse della storia culturale e religiosa, o se vogliamo della cultura religiosa in epoca contemporanea, sul XIX e XX secolo, ed è anche promotore di un'iniziativa editoriale che in Italia ha un notevole interesse, vista la scarsità di sistematica produzione di fonti storiche riguardanti la storia ecclesiastica, vale a dire una registrazione sistematica delle lettere pastorali delle diocesi italiane dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni. Organizzato per gruppi di ricerca regionali, ne sono uscite, se non erro, finora due volumi, il primo riguardante le diocesi emiliano-romagnole, il secondo riguardante le diocesi toscane, mentre sono in preparazione questa registrazione che riguarda altre aree regionali tipo la Lombardia, il Piemonte, le Venezie, la Liguria, eccetera. Quindi, oltre che essere studioso di notevole rilievo sul piano della propria produzione personale, che evidentemente qualifica nonostante tutto ancora la nostra attività, è anche uno di quegli studiosi che operano in equipe per la promozione della costituzione, diciamo, delle basi fondamentali della ricerca scientifica nel campo della storia religiosa ed ecclesiastica in Italia, il che mi pare costituisca un merito che non può essere sottovalutato. Gli passo senz'altro la parola, ricordando appunto che il suo intervento riguarda gli orientamenti della cultura cattolica nell'età del Kulturkampf. Come gruppo, diciamo, di lavoro italiano, abbiamo ritenuto che fosse opportuno anche dare un'occhiata, oltre che agli aspetti più strettamente politico-sociali, anche al modo in cui le diverse correnti culturali, le diverse ispirazioni culturali si intrecciano in un momento che è complessivamente molto ricco di sollecitazioni e anche di conflitti che intrecciano poi i mondi culturali e le aree culturali nelle quali si dividono le diverse realtà nazionali, quindi riteniamo che questo sfondo relativo agli aspetti culturali sia importante proprio per comprendere, per attingere agli elementi ultimi, in definitiva, del conflitto che definiamo appunto come Kulturkampf. Ringrazio in primo luogo il professor Tragnello delle buone parole che ha voluto avere per la mia attività e per i miei studi, e credo che siano dovute appunto alla lunga amicizia che ha avuto la bontà di ricordare, che risale appunto al 1969, l'anno in cui ho avuto la fortuna di incontrarlo. Passo allora alla mia relazione. Mi occuperò degli orientamenti della cultura cattolica italiana, non in termini generali, che sarebbe evidentemente un'impresa ardua, ma secondo una linea specifica, limitata, e cioè gli orientamenti della cultura cattolica italiana in relazione al problema chiese-società, su questo aspetto specifico. Per interesse soggettivo, ma credo anche perché abbia una oggettiva rilevanza in questo momento, e credo che la relazione lo mostrerà. Una seconda precisazione, la periodizzazione, cioè pur senza rimanere troppo strettamente legato a queste date, vorrei occuparmi però di un periodo delimitato, cioè il periodo che si apre con l'enciclica Etsi Multa Luttuosa di Pio IX, 21 novembre 1873, e che si chiude con la lettera indirizzata da Leone XIII ai vescovi prussiani, Iamprede Nobis, dell'inizio del 1886. Ecco, sono quindi in questi 16 anni, anche se occorrerà necessariamente considerare anche orientamenti di lungo periodo. E comincerei proprio con una citazione dall'enciclica Etsi Multa Luttuosa, perché in essa Pio IX fornisce una spiegazione complessiva delle origini e delle ragioni del Kulturkampf che credo convenga ricordarle. Diceva dunque Pio IX: chiunque ben conosce l'indole, i voti ed il proposito delle sette, sia che dicansi massoniche, sia che chiamansi con qualsivoglia altro nome, e li paragoni all'indole, al modo e all'ampiezza di questa guerra, onde quasi dappertutto la Chiesa è assalita, non potrà dubitare che la presente calamità non si debba attribuire alle frodi e alle macchine di quelle sette, Di esse, infatti, si forma la sinagoga di Satana, che contro la Chiesa di Cristo ordina il suo esercito, innalza bandiera e viene alla pugna. Conseguito quello che tanto avevano desiderato, il reggimento, cioè ogni cosa, nella maggior parte dei paesi, valgono audacemente la forza e l'autorità acquistatasi allo scopo di ridurre in durissima servitù la Chiesa, abbattere i fondamenti sopra i quali essa posa, depravare le divine note di cui insignita ella rifugge, che più, squassata da frequenti colpi, abbattuta, disfatta, annientarla del tutto, se sia possibile, nell'universo mondo. In tal modo, il Papa collegava le recenti vicende tedesche ad una interpretazione complessiva della modernità presentata come complotto satanico volto alla distruzione della Chiesa, che era venuta maturando nel cattolicesimo, quell'interpretazione era venuta maturando nel cattolicesimo ultramontano e intransigente dopo la Rivoluzione francese. In quest'ottica il Kulturkampf appariva la più recente estrinsecazione di una macchinazione di lungo periodo. Non a caso, su Civiltà Cattolica, poco prima della pubblicazione dell'enciclica, il padre Steccanella aveva presentato la politica di Bismarck come la continuazione di quel progetto di Borgo Fontana con cui la reazione cattolica all'89 aveva spiegato l'origine della rivoluzione come segreta congiura di giansenisti, massoni e illuministi diretta ad abbattere l'altare e il trono. E subito dopo quell'enciclica, sempre sul periodico dei Gesuiti, il padre Ballerini ricordava come con il suo testo, con l'enciclica, Pio IX avesse finalmente reso chiaro e noto a tutto il mondo contemporaneo che gli stati erano ormai dominati dalla grande setta anticristiana, la quale, in ossequio a Satana, suo nume, ha giurata la perdizione del regno di Cristo sopra la terra. Bisogna subito precisare che agli occhi del Papa, come a quello dei gesuiti italiani, un po' piedaccio. Anche perché è possibile che la discussione si rimandi a domani, quindi hai più tempo a disposizione. Benissimo, grazie. Ecco, dicevo che bisogna precisare che agli occhi del Papa e agli occhi degli scrittori di Civiltà Cattolica appariva come attacco al cattolicesimo ogni tentativo di mettere in questione la società ufficialmente cristiana, vale a dire quel regime di cristianità in cui la Chiesa godeva di un supremo potere direttivo sul consorzio civile. Gli interventi di Matteo Liberatore e dello stesso Ballerini su Civiltà Cattolica individuavano la ragione ultima di tutti i processi in atto in Europa, Kulturkampf in Germania, Svizzera, ma anche il tentativo di separazione della Chiesa dello Stato, cioè quanto avveniva in Italia, presentavano tutti i processi, tutti i fenomeni di laicizzazione e di secolarizzazione, come il fatto che in Europa i governi si sono intesi per escludere Gesù Cristo dalla loro civiltà. Ripetendo il detto, cito da un articolo di Ballerini, ripetendo il detto della sinagoga contro Gesù Cristo, nolumus unc regnare super nos, cioè traduceva Ballerini, vogliamo vivere separati dalla Chiesa, nolumus unc regnare super nos, traduceva, vogliamo vivere separati dalla Chiesa, i governi, ripetendo questo detto, i governi disconoscevano quella rogalità sociale di Cristo che gli aveva trasmesso al suo vicario in terra. Secondo il Ballerini, sostenevano questo tipo di politica tutti i fautori della civiltà moderna, che, pur convergendo in uno scopo unitario, si presentavano in forme articolate secondo la misura della cognizione che avevano degli obiettivi della congiura settaria contro la Chiesa. Secondo il Ballerini, vi erano i radicali, ben consapevoli degli scopi delle sette che confessavano pubblicamente l'intento di distruggere il cattolicesimo, vi erano i moderati che, pur scorgendo nelle chiese elementi positivi, ne stigmatizzavano la volontà di opporsi al mondo moderno, e vi erano infine i cattolici liberali che rimproveravano alla Chiesa l'eccessivo amore per il potere goduto nel passato medievale e sostenevano l'impossibilità di ricostruirlo. In tal modo non venivano prese di mira solamente le posizioni anticlericali della sinistra o laiciste della destra moderata, ma orientamenti come quelli che già da parecchi anni circolavano all'interno della Chiesa Cattolica. Penso ad esempio, tanto per fare un esempio, alle tesi che il benedettino Luigi Tosti aveva espresso nei suoi prolegomeni alla storia della Chiesa. Qui egli aveva sostenuto che la Chiesa, immota per la invariabilità del Vangelo, ma feconda di una inesauribile varietà di forme, rispondente alla formale variabilità dell'umanità progrediente, avrebbe potuto trovare una composizione col mondo moderno solo abbandonando le forme di potere teocratico di cui aveva goduto ai tempi di Gregorio VII. Dunque, gli scrittori di civiltà cattolica che commentavano il Papa si opponevano alle tesi dei cattolici liberali e posizioni come quelle appunto sostenute dal padre Tosti. La polemica del periodico dei Gesuiti contro posizioni di questo tipo era continua ed insistita. Si andava da saggi diretti contro i cattolici liberali, proprio in quanto dimenticavano, cito da un articolo di Matteo Liberatore, dimenticavano, volendo conciliare la Chiesa col mondo moderno, che la Chiesa è regina, non serva, legislatrice, non suddita, maestra, non discepola del mondo. Fino a recensioni in cui appunto gli scrittori della compagnia stigmatizzavano ogni pur marginale concessione di autori cattolici ad idee liberalesche. Non faccio esempi che poi potrete trovare nel testo scritto. Quello che mi preme sottolineare è che l'attacco contro i cattolici liberali non si svolgeva solo su questi piani, ma anche su piani più radicali. Tra i vari esempi ne faccio uno, preso da un articolo su Civiltà Cattolica dello Steccanella, cioè lo Steccanella cercava più riprese di precisare il grado di coinvolgimento dei cattolici liberali nel progetto delle sette anticristiane di distruggere la Chiesa. E si attestava, dopo una lunga discussione durata diversi articoli, si attestava su questa tesi generale, cioè che essi ne costituivano degli inconsapevoli collaboratori. I cattolici liberali erano gli inconsapevoli collaboratori del progetto di distruzione del cattolicesimo, che per i gesuiti voleva dire distruggere la società cristiana. A suo avviso, secondo lo Steccanella, fatta salva la buona fede di alcuni cattolici liberali, ma per contro l'attiva partecipazione di altri alle logge, e questi cattolici liberali, nella misura in cui accettavano i valori dell'89, condividevano comunque i principi e gli scopi della congiura anticristiana che circolava nel mondo del periodo. Ecco, vorrei ricordare che queste posizioni non erano solo della Civiltà Cattolica, che c'era tutta una varia pubblicistica che le riprendeva e sosteneva. Tra i vari autori mi limito a ricordare solo Avogadro della Motta, che ha studiato appunto professor Tragnello, non riprendo appunto questa figura, mi limito solo a ricordare che nel 1873 usciva postuma una sua opera intitolata Gesù Cristo agli occhi del secolo XIX, che la Civiltà Cattolica recensiva entusiasticamente, ma che riprendeva appunto quel tipo di tesi che adesso vi ho detto contro i cattolici liberali, infarciti per di più di quella polemica antirosminiana, perché appunto il Rosmini veniva considerato come colui che costituiva l'anticamera dell'accesso dei cattolici al socialismo. Sostanzialmente era questa la tesi che riprendeva. Ecco, vorrei però soffermarmi su un altro esempio, cioè che in questa cultura intransigente, sostenuta Civiltà Cattolica, altri periodici, una vasta pubblicistica, emergevano anche posizioni differenziate, nel senso che la cultura intransigente non costituiva un blocco omogeneo su queste opposizioni, emergevano anche tesi molto più forti, molto più radicali di quelle che ora abbiamo visto. Vorrei fare un esempio a questo proposito, è quello di un sacerdote bolognese, che il padre Martina certamente conosce perché ha citato nel suo Pio IX, cioè Bernardino Negroni, che non è solamente interessante perché è biografo di Pio IX, ma proprio per il modo in cui si colloca all'interno della cultura intransigente. Le concezioni del Negroni a questo proposito scaturiscono da quel torbido clima ecclesiale, che il padre Martina ha assai bene illustrato, da cui nasce Bernardino Negroni, Ecco, di quel torbido clima ecclesiale da cui scaturiva il lavoro del cretino Joly sulla penetrazione della massoneria nella Chiesa. Ecco, lui si richiama direttamente a questa, immediatamente dopo l'Unità d'Italia, c'è un momento appunto che il padre Martinelli ha strato abbastanza, direi, torbido, da cui scaturisce questa... Rallentamento. Tira i freni. Sì, va bene. Sì. Abbiamo tempo. Va bene. Ecco, non è allora questa la sede per esaminare la prospettiva apocalittica che domina la sua storia passata, presente e futura della setta anticristiana e antisociale, questa è la sua opera fondamentale, apparsa nel 1876, né il fondamentalismo e letteralismo biblico a cui è ancorata. Vorrei invece sottolineare che il Negroni ritiene prossima la fine dei tempi sulla base di due dati. In primo luogo che la Chiesa è pervenuta all'ultimo grado della sua decadenza, proprio in quanto ha del tutto perduto quel potere sociale di cui aveva goduto nel passato ed in particolare nel Medioevo. In secondo luogo che egli vede avverarsi la profezia del prossimo compimento dei tempi in seguito al fatto che un grande numero di fedeli è passato nelle file della incredulità. E chi sono i fedeli che sono passati nelle file dell'incredulità? I cattolici liberali. Poiché, dice, l'89 ha rappresentato la prima grande vittoria della setta anticristiana e i cattolici liberali si propongono di realizzare un 89 nella Chiesa, è il tema di Lefebvre, appare ai suoi occhi evidente che ormai gli adepti di Satana operano all'interno della Chiesa, talora in posizioni di responsabilità. La civiltà cattolica, dopo un primo momento di accettazione di queste posizioni, comincia a prendere le distanze in maniera sempre più netta, con una critica sempre più forte nei confronti del Negroni, che alla fine verrà sospeso a Divinis, le sue opere verranno messe all'indice quando deciderà di attaccare direttamente Pio IX, quando metterà Pio IX ormai è diventato appunto il rappresentante dei cattolici liberali, è chiaro che allora viene messo all'indice. Ecco, quello che mi preme sottolineare è che le sue convinzioni traevano origine dagli stessi presupposti, anche se poi portati a delle conseguenze fantasiose, che caratterizzavano la cultura dell'intransigenza, cioè la necessità di un potere direttivo della Chiesa sulla società, secondo gli schemi medievalistici, e la convinzione che quanti lo rifiutavano, in particolare i sostenitori del cattolicesimo liberale, partecipavano attivamente alla congiura diabolica delle sette contro il cattolicesimo. Ecco, cioè, all'interno di questa cultura che sosteneva questo tipo di tesi si manifestavano poi divaricazioni che giungevano appunto a posizioni estremiste come quelle del Negroni, che giungeva addirittura a dire vabbè, siamo giunti alla fine dei tempi perché la congiura diabolica è arrivata all'interno della Chiesa, tanto che chi ha responsabilità nella Chiesa vi partecipa attivamente. Ecco, ma queste tesi appunto, seppur in un diverso grado, erano tesi che condivideva largamente la cultura, tutta la cultura intransigente, anche se non le portava a queste estreme conseguenze. Ecco, fissato questo punto, vorrei adesso passare ad un altro punto, e cioè quali erano gli orientamenti autentici di questi cattolici liberali che venivano accusati di essere partecipe della congiura diabolica contro il dominio sociale della Chiesa, contro il controllo della Chiesa sulla società. Ecco, chi erano questi cattolici liberali? Quali posizioni in merito al rapporto Chiesa-società sostenevano questi cattolici liberali considerati corresponsabili dell'apostasia del mondo moderno? Ecco, io credo che anche qui si debba cogliere, d'altra parte già stamattina il professor Tragnello l'ha messa in rilievo, si debba cogliere un certo ventaglio di posizioni, un'articolazione di posizioni. Cioè, ad esempio, a giudicare dal dibattito che Matteo Liberatore ingaggia con Enrico Cenni, con scambio appunto di interventi, numerosi interventi, a proposito della legittimità, il pretesto è molto piccolo, è la legittimità delle pretese al trono di Francia del conte di Chambord, ma in realtà il dibattito si allarga, arriva appunto all'insieme dei problemi del rapporto Chiesa-società. Ecco, a giudicare direi da questo dibattito, la divaricazione tra intransigenti e cattolici liberali non era poi insormontabile. L'avvocato napoletano, cioè il Cenni, finiva per convenire su alcuni punti che il gesuita giudicava qualificanti ed irrinunciabili da un punto di vista dottrinale. Primo, la soprasovranità della Chiesa sullo Stato, l'espressione è del Liberatore, soprasovranità della Chiesa sullo Stato. Secondo, necessità che fra Stato e Chiesa non vi sia separazione, in quanto il primo, cioè lo Stato, è mezzo ai fini che solo la seconda può determinare. Dunque il ruolo ministeriale dello Stato rispetto alla Chiesa. Terzo, il pontefice ha un supremo ruolo di arbitrato nella legittimazione del potere a livello internazionale. Questi erano i tre punti su cui convergevano, anche se poi il Cenni continuava a sostenere che la società cristiana medievale rappresentava un modello ideale e il potere teocratico rappresentava un modello ideale, mentre invece nella età contemporanea non si trattava di ritornare a quel modello, occorreva accettarlo come principio. Tesi, ma trovare poi nella società moderna nuovi modi di estrinsecazione di queste forme di potere della Chiesa sulla società, quindi ipotesi, cioè il Cenni sosteneva la necessità dell'ipotesi, era questa la divergenza, ma non di principio, sui principi c'era convergenza effettiva, convergenza reale. Ecco, se quindi con alcuni cattolici liberali si trovava un terreno d'intesa, ci poteva essere un terreno d'intesa, con altri cattolici liberali la divaricazione invece era netta, era chiara, non c'era possibilità di intesa. Voglio fare appunto l'esempio, forse appunto più tipico, più significativo, cioè le opere che a partire dal 1874 un ex direttore di Civiltà Cattolica, il padre Curci, comincia a pubblicare, prendendo via via sempre più le distanze dall'intransigentismo che aveva caratterizzato la sua giovinezza. Mi soffermerò un attimo sul Curci perché mi pare uno degli snodi effettivi della cultura cattolica in questo periodo in merito ai problemi sul rapporto Chiesa-società. Allora, anche il Curci, nelle sue lezioni esegetiche, condivide la nostalgia per la società cristiana medievale, presenta la civiltà moderna come il risultato di una apostasia che ha avuto origine per successive filiazioni dalla Riforma protestante. Riforma protestante, illuminismo, liberalismo, illuminismo, rivoluzione francese, liberalismo, la genealogia degli errori moderni, che il padre Curci a queste date, vedremo poi che cambierà, condivide, e individua nell'attività di Satana, attraverso le sette, la ragione della rivoluzione che scuote il mondo contemporaneo e di cui il Kulturkampf costituisce la più recente specificazione. Il Curci su questi punti è d'accordo. Al contempo, però, sostiene che se la provvidenza ha consentito la realizzazione di questo processo di secolarizzazione è perché vuole lanciare alla Chiesa un messaggio. La persecuzione odierna, dice il Curci, incalza i ministri ed i servi di Dio perché la sapienza divina vuole metterli nella felice necessità di rifarsi praticamente a quelle sante austerità evangeliche delle quali poteano, insieme alla pratica, aver smarrito anche il concetto. Secondo il Curci, la millenaria osmosi della Chiesa con i poteri sociali aveva indotto numerosi ecclesiastici a scambiare il perseguimento del fine, cioè la salvezza ultraterrena degli uomini, con la conservazione del mezzo, cioè gli strumenti temporali con cui si otteneva o si facilitava il raggiungimento dello scopo della salvezza ultraterrena. A suo avviso, la scomparsa della società ufficialmente cristiana non doveva indurre ad operare per il ritorno al passato, in particolare al passato medievale, ma piuttosto ad abbandonare ogni pretesa ecclesiastica alla potenza mondana, allo sfarzo esteriore, alla ricchezza, per concentrarsi sullo scopo effettivo, lo scopo vero, che era lo scopo spirituale quello e pastorale, quello di giungere alla salvezza delle anime, condurre gli uomini alla salvezza. Ecco, vorrei dire che nel Curci, che pure sembra così lontano dalla prospettiva intransigente su questi punti, non manca però alcuni elementi molto forti che facevano che caratterizzavano l'intransigentismo. In particolare non manca la tesi che occorre, nel nuovo mondo che il Curci auspica, giungere a ricostruire la regalità di Cristo sulle istituzioni pubbliche. Secondo, cito ancora una frase del Curci dalle lezioni evangeliche: quello che tutti dobbiamo desiderare è una maniera dell'adveniat regnum tuum applicata alla vita civile dei popoli, per effetto della quale Cristo sia riconosciuto universalmente come re sovrano delle nazioni, sicché si abbiano governi veramente cristiani. Ecco, solo che quello che era cambiato nel Curci era che questo scopo finale della regalità sociale di Cristo e, come sappiamo, del suo vicario, non si otteneva attraverso il fatto che la Chiesa desse delle indicazioni circa la costituzione degli stati, l'ordinamento interno degli stati, ma piuttosto illuminando le coscienze civili, le coscienze dei singoli. Il compito della Chiesa era quello di illuminare le coscienze dei singoli, dei fedeli, i quali fedeli, operando nel consorzio civile, avrebbero poi potuto orientarlo verso la perfezione, ma una perfezione che solo il cristianesimo poteva dare. Non c'è nel Curci il riconoscimento dell'autonomia, dell'operare dell'uomo nella storia. Per il Curci l'uomo deve necessariamente operare, se vuole raggiungere la forma socialmente perfetta della comunità, deve operare conformemente al cristianesimo. Il cristianesimo è il grado di civiltà raggiunto da un'associazione umana. Credo quello che è importante, credo, tenere presente è questo fatto, che per il Curci questo scopo doveva essere raggiunto non attraverso strumenti mondani, ma attraverso strumenti esclusivamente spirituali. Questa è la vera differenza che lo divide da civiltà cattolica e dagli intransigenti, e il fatto che scoppia appunto una polemica abbastanza forte nel mondo cattolico su questo caso. Per il Curci questo scopo, questo obiettivo finale della regalità sociale doveva essere raggiunto attraverso strumenti pastorali, non attraverso strumenti di potere, non attraverso strumenti terreni, non attraverso il ruolo ministeriale dello Stato, sostanzialmente. Ecco, nella mia relazione ho fatto anche un altro esempio di queste posizioni che incontrano la diffidenza e anche la battaglia degli intransigenti, ed è quella di un altro personaggio che il professor Straniello ha studiato, cioè Audisio, e cioè il suo libro che appare credo ancora nel 76, della società politica e religiosa rispetto al secolo XIX, in cui ci sono posizioni abbastanza vicine a quelle del Curci, magari un po' meno radicali, però adesso non ho il tempo di esaminarlo in dettaglio. Vi volevo solo dire che questo mondo del cattolicesimo liberale italiano è un mondo articolato, è un mondo nel quale ci sono posizioni differenziate, non è un mondo uniforme riguardo al problema della Chiesa della società. Cioè, pur senza voler negare, però mi interessava anche chiarire un punto, pur senza voler negare differenze e polemiche, anche aspre, che dividevano i cattolici liberali dagli intransigenti, nella cultura cattolica appariva però comune e condivisa la tesi che la corretta soluzione al rapporto tra Chiesa e mondo moderno stava comunque nella costruzione di una società cristiana. Diversi erano i modelli di società cristiana che si prospettavano, diversi i mezzi con cui raggiungerla, ma unica era la valutazione di fondo. Solo la Chiesa, detentrice della civiltà, poteva definire i corretti valori ultimi e fondamentali attorno ai quali organizzare la convivenza civile. L'uomo da solo non poteva trovarli. L'uomo da solo non può costruire la sua storia, non può costruire l'organizzazione politica. Se vuole dar vita ad un'organizzazione politica civile, deve richiamarsi alla Chiesa. Diversi, ma su questo punto c'era un elemento di fondo. E quando stamattina ci ponevamo il problema di che cosa vuol dire essere cattolico in politica, ecco, credo che forse qui si trovi uno dei nodi cruciali, cioè c'è la condivisione di un punto e di un elemento fondamentale, che non si dà civiltà senza società cristiana, anzi, non si dà società senza società cristiana, perché per quasi tutti questi autori non riconoscere il ruolo direttivo mediato o immediato della Chiesa significa andare verso l'anarchia, significa andare verso la barbarie. Su questo l'Audisio e il Curci sono totalmente d'accordo, così come sono d'accordo naturalmente gli intransigenti. Non riconoscere il ruolo direttivo della Chiesa significa spezzare i vincoli della socialità, significa ritornare all'anarchia. Passo adesso ad un altro punto. Che cosa cambia l'avvento di Leone XIII su questa cultura? Differenziata e nello stesso tempo unita. Ha cambiato qualche cosa il passaggio del Papa, il mutamento del Papa. Ecco, un primo dato che credo vada ricordato è il fatto che la civiltà cattolica si sforza di sostenere, cito da una frase di Liberatore, la voce di Leone XIII non è che la continuazione della voce di Pio IX. E su questo tipo di tesi, cioè quello della continuità nei primi anni, siamo solamente nei primi anni, poi vedremo che le cose un pochino cambiano, nei primi anni la tesi che gli scrittori di civiltà cattolica è questa, cioè la linea di Leone XIII è la stessa linea di Pio IX. Sulla base di questa tesi, il Ballerini, ad esempio, riprende gli elementi che già avevamo visto. Cioè anche per Leone XIII il mondo moderno è una congiura delle sette contro la Chiesa al fine di distruggere la società cristiana. Da questo punto di vista nei primi anni del pontificato di Leone XIII non cambia nulla. Ecco, cambia invece qualche cosa, ben presto, ecco, tuttavia, il successo che ottiene la duttilità della politica proprio verso la Germania del nuovo pontificato sembra imporre anche agli scrittori di civiltà cattolica qualche ripensamento. Qui cominciamo appunto quando si vede che Leone XIII ottiene qualche cosa con una politica più duttile. La tesi del Liberatore era stata semplicemente che Leone XIII aveva addolcito i toni per impedire che gli avversari della Chiesa non si rifacessero alla durezza dello stile di Pio IX per sottrarsi alle sue condanne, ma i contenuti erano i medesimi. Ecco, quando invece si vede che non c'è semplicemente una questione di stile o di toni, ma ci cominciano a ottenere dei risultati, allora le cose cominciano a cambiare. Cioè, constatando lo stesso Liberatore, constatando il ruolo positivo svolto dal Zentrum per far mutare rotta Bismarck, afferma che le funzioni che nella cristianità medievale erano state proprie dei sovrani cristiani, devono ora essere assunte dal laicato cattolico, il quale, nei principi stessi promulgati dal liberalismo, di libertà di coscienza, di uguaglianza sociale, di dominio della pubblica opinione, di sovranità popolare, può trovare armi forbite per resistere alle invasioni governative e contenere lo Stato nei giusti limiti. C'è un capovolgimento in qualche modo di posizione, la modernità non viene più condannata in blocco, la modernità offre degli strumenti per resistere alla lotta del mondo moderno contro la Chiesa. Ecco, certo che questo non passa senza dibattiti. Subito dopo l'articolo del Liberatore, credo il fascicolo successivo, c'è un altro articolo di Zocchi, sempre sulla civiltà cattolica, che precisa che la difesa religiosa e sociale non deve essere confusa con una vera e propria accettazione del sistema rivoluzionario, legge liberale, al buon fine di volgere questo in utilità dell'azione cattolica. Si può fare un uso limitato di mezzi legali dello Stato moderno, non si può però giungere in tal modo ad una legittimazione globale della società moderna. La società moderna in quanto tale è nemica della Chiesa, l'accettazione dei suoi strumenti non può esserne una legittimazione. Ecco, mentre c'è all'interno del mondo intransigente questo dibattito, che mi sembra molto ben esemplificato da questi due articoli che si succedono rapidamente sulla civiltà cattolica, Leone XIII procede con interventi specifici in campo culturale. Ne ricordo due che mi sembrano particolarmente significativi, cioè l'Eterni Patris, sull'assunzione della filosofia tomista alla base dell'insegnamento nelle scuole cattoliche, e la lettera Sepe Numero sugli studi storici. Ecco, credo che sia interessante vedere la reazione del mondo cattolico a queste due interventi pontifici che apparentemente riguardano solamente questioni sociali, ma che, credo lo vedremo abbastanza chiaramente, sono invece strettamente legate al problema del rapporto Chiesa-società, cioè al modo in cui la Chiesa si muove nella società moderna. Ecco, gli ambienti intransigenti recepiscono queste due encicliche in una maniera abbastanza, direi, duttile. Faccio l'esempio degli interventi del padre Cornoldi sulla civiltà cattolica a proposito della Eterni Patris, cioè egli non si limita a sostenere che Leone XIII ha fissato il ruolo ancillare della filosofia rispetto alla teologia ed ha restituito la prima, cioè la filosofia, alla sorveglianza diretta e piena della infallibile autorità della sede apostolica. Sostiene anche che il nucleo centrale dell'enciclica è l'abbandono di quelle filosofie che crearono una stolta e insieme superba opposizione alla Chiesa, le quali, svoltesi nei loro pratici principi sociali, quindi è chiarissimo il significato per il Cornoldi dell'enciclica dal punto di vista del rapporto Chiesa-società, le filosofie che l'enciclica combatte si sono svolte in principi sociali che hanno minato la società tutta quanta, riducendola per la negazione del vero e divino fondamento e principio di autorità all'anarchia. Questo mi sembra il modo in cui si reagisse alla Eterni Patris. L'Eterni Patris è in qualche modo una conferma della necessità che la Chiesa ritorni a dirigere la società, in quanto in questo modo la Chiesa combatte quelle filosofie che cercavano di scalzare l'egemonia della Chiesa sul consorzio civile. Analogamente il Cornoldi interviene a commentare la Sepe Numero dicendo che essa, contro quanti pretendono di far comparire la Chiesa come causa dei mali sociali, ha il compito di mostrare, attraverso la promozione degli studi storici, che la Chiesa, che esiste una incessante azione della provvidenza nelle vicende umane, che porta a far riconoscere nella Chiesa la dispensatrice di quella verità che alla fin fine sola garantisce la corretta convivenza civile. Ecco. Cioè, mi pare, insomma, che il Cornoldi non si sforzi cogliere esattamente il senso e la portata di queste encicliche, ma cerchi di mostrare come in queste encicliche venga confermata la tipica tesi intransigente della necessità di una direzione ecclesiastica sul consorzio civile. Ecco, come reagivano? Se gli intransigenti reagivano in questo modo, ecco, come reagivano i cattolici liberali di fronte a questi due interventi del Papa? Ecco, anche qua credo che si debba sottolineare l'articolazione del mondo cattolico liberale, la divisione del mondo cattolico liberale. Vi sono alcuni, come il padre Tosti, che abbiamo ricordato prima, che vede in queste due encicliche che vi ho ricordato, un soffio primaverile che ci solleva il petto al respiro di una grande speranza. Perché? Perché il pontefice si propone di diffondere la civiltà cristiana non solo in un linguaggio attraente per i contemporanei, ma sotto la forma di un nuovo impero che si limita alla signoria delle coscienze. Per il padre Tosti queste due encicliche significano riconoscimento, legittimazione della posizione cattolico-liberale, sostanzialmente. Ve ne sono invece altri che nei confronti di queste encicliche reagiscono in maniera molto più dura. Ad esempio il padre Curci nel 1883 pubblica Il Vaticano Regio, giudica molto negativamente tanto l'Eterni Patris, seppure in termini più sfumati, ma soprattutto la Sepe Numero. La Sempre Numero è una enciclica che è preordinata alla ricerca del ruolo civile del papato e quindi non può promuovere gli studi storici, perché gli studi storici devono cercare spassionatamente la verità e non devono avere un fine preordinato. Così come nell'Eternis Patris, dice, ecco interessante, dice, l'Eternis Patris potrebbe svolgere un ruolo importante, in quanto potrebbe fare acquisire alla Chiesa Cattolica gli strumenti della scienza moderna, ma essa non viene applicata a scopi specifici, ma viene applicata a scopi di prestigio sociale. In particolare il padre Curci cita la edizione leonina della Summa di San Tommaso come esempio di uno sfoggio di sontuosità editoriale anziché di rigore critico, dicendo appunto che è di nuovo questa chiesa che intende presentarsi non come ricerca appunto della scienza, ma come appunto detentrice di un potere. Ecco, il fatto è che appunto ormai nel Curci è cambiato, credo, qualche cosa. Cioè il Curci, se prima il Curci appunto condivideva alcune posizioni del mondo intransigente circa la filiazione della genealogia degli errori moderni, ormai il Curci non la pensa più così. Per il Curci ormai la tradizionale genealogia degli errori moderni si è rovesciata nell'affermazione che riforma e rivoluzione francese costituiscono i due momenti centrali in cui la coscienza cristiana ha affermato la propria libertà e respinge e ha respinto ogni forma di servitù ecclesiastica, politica e sociale. Per lui appunto ormai si trattava di fare in modo che il mondo si avviasse verso il cristianesimo attraverso una influenza indiretta che i ministri della Chiesa possono esercitare solamente illuminando le coscienze. Ecco, vorrei anche precisare che il Curci ritiene ancora la civiltà indissolubilmente legata al cristianesimo. Su questo punto non ha mutato posizione. Solamente appunto la Chiesa non può più svolgere il suo ruolo sociale attraverso l'imposizione di direttive oppure cercando di procurarsi privilegi per mezzo di un papato politico. Il suo giudizio su Leone XIII è durissimo, è un papato politico, è un papato esclusivamente politico. Si tratta invece di svolgere, dice il Curci, l'ufficio di sale e di luce che Gesù ai suoi tempi aveva compiuto e che ora si compie attraverso una più intensa diffusione della scrittura da parte della gerarchia nei confronti dei fedeli. Ecco, ma mentre appunto il Curci reagisce negativamente nei confronti delle encicliche leonine, altri autori del cattolicismo liberale, peraltro legati da rapporti di stima e talora di amicizia nei confronti del Curci, reagiscono invece in maniera molto positiva. Penso ad esempio al libro dello Stoppani, che il professor Straniello ha studiato, appunto il dogma e le scienze positive, che si presenta come un'applicazione pratica degli indirizzi dell'Eterni Patris, contro coloro, cioè gli intransigenti, che li interpretavano come un nuovo giogo umiliante, insopportabile e tiranno, a cui si vuole piegare la libera intelligenza dei filosofi. E per lo scienziato lombardo il significato dell'Eterni Patris era molto diverso, così come San Tommaso d'Aquino aveva condotto nel Medioevo l'operazione di collegamento tra aristotelismo e cattolicesimo, si trattava di condurre nell'età contemporanea la stessa operazione che San Tommaso d'Aquino aveva quei tempi fatto, cioè appunto collegare l'età moderna con il cattolicesimo. Cioè l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino non era formale, era un insegnamento di tipo strumentale, cioè occorreva rifare la sua stessa operazione, non riproporre il tomismo come invece volevano fare gli intransigenti. Ecco, così come altri personaggi mostravano nei confronti della Sempre Numero un atteggiamento molto diverso da quello che aveva altri personaggi di un certo rilievo, di un certo spessore, da quello del Curci. Penso ad esempio all'arcivescovo di Capua, il Capecelatro, che dedica un suo discorso proprio abbastanza, anche qua, abbastanza apologetico nei confronti della Seppe Numero, però alla fin fine, insomma, ecco, lui presenta la Seppe Numero come la conferma delle sue tesi generali circa la necessità di fondare le libertà civili e politiche sulla dottrina cristiana, quindi un apprezzamento totale nei confronti di questo intervento leonino. Ecco, vorrei dire, la cultura cattolica italiana sembrava reagire agli interventi di Leone XIII con il tentativo di intransigenti e cattolici liberali, seppure nelle forme articolate che abbiamo visto, di scorgervi una legittimazione alle rispettive posizioni sul rapporto Chiesa-società. Gli interventi di Leone XIII venivano considerati più che in sé per quello che dicevano, come il tentativo di venivano interpretati come la legittimazione delle proprie posizioni. Ciascuno vedeva nell'Eterni Patris o nella Seppe Numero quello che gli faceva più comodo sostanzialmente. Ecco. E in questa impostazione di fondo si trova ancora una puntuale conferma nelle reazioni del mondo cattolico all'enciclica Immortale Dei, 1885, che il Papa dedica a fissare la visione cattolica dello Stato, coniugando la riproposizione delle tesi intransigenti sull'apostasia della società moderna dalla Chiesa e sulla necessità di restaurare una società cristiana con un possibilismo pratico nei confronti degli stati moderni che consentiva ai cattolici, salvo il caso italiano, di accettarne gli ordinamenti. Ecco, adesso forse è un po' tardi per esaminare in maniera analitica il modo in cui viene recepita la Immortale Dei da parte delle due posizioni. Molto brevemente, sinteticamente, posso dire che il Cornoldi, ancora una volta, la presenta come la giustificazione della Societas Perfecta cristiana, e quando parla di Societas Perfecta intende dire per l'appunto che la Chiesa è Societas Perfecta in quanto solo essa è in grado di definire i modi di raggruppamento del consorzio civile. Ecco, e anche qua c'è tutta poi una pubblicistica di contorno che sviluppa questo tipo di posizioni. D'altro canto ci sono altri autori, penso in particolare ad uno degli esponenti forse più radicali del cattolicesimo liberale in Italia, cioè Carlo Cadorna, nell'Immortale Dei un pieno sostegno alle sue tesi sul fatto che ogni associazione religiosa, e quindi anche la Chiesa Cattolica, è sottoposta al diritto comune dello Stato. Questa è la tesi centrale del libro di Carlo Cadorna, e a più riprese nel suo voluminosissimo libro interviene per sostenere che l'Immortale Dei giustifica questa tesi, cioè che la Chiesa non può rivendicare nessun privilegio, nessun concordato, nessuno statuto speciale, semplicemente è un'associazione religiosa e come tutte le associazioni religiose è sottoposta al diritto comune dello Stato. Ecco. Non esamino analiticamente queste diverse prospettive per avviarmi alla conclusione e per far emergere appunto un altro tipo di linea che mi sembra però venir fuori, cioè se fino adesso mi sembra di avere notato che il pontificato di Leone XIII non veniva recepito come qualche cosa di innovativo, ma serviva a consolidare posizioni emerse precedentemente, mi pare a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, anche nella cultura cattolica italiana ci si comincia a muovere qualche cosa, a cogliere qualche cosa di nuovo. Vi è cioè lo sforzo di cogliere nella linea prospettata da Leone XIII indicazioni specifiche che si riteneva potessero portare più che alla conferma delle tesi degli intransigenti o dei cattolici liberali a nuovi sviluppi. Direi che ne possiamo trovare un esempio significativo nei due saggi che il Tognono pubblica proprio nel 1886, quando cioè ormai il Kulturkampf si chiude, al momento della pratica conclusione del Kulturkampf sulla esigenza di orientare gli studi cattolici verso le scienze sociali. Giuseppe Tognolo, sì. Il professore Pisano mutua dalle encicliche di Leone XIII sui problemi contemporanei, quindi li cita esplicitamente, l'Eterni Patris, la Seppe Numero, cita anche quella sulla massoneria, l'Humanum Genus, anche ovviamente l'Immortale Dei. Allora, da queste encicliche ritiene che si possano mutare alcune concezioni di fondo, cioè che la civiltà è figlia del cristianesimo e la Chiesa esercita una suprema funzione in ordine all'incivilimento dei popoli, che la degenerazione, incominciata con la riforma protestante, compiuta con la rivoluzione e il liberalismo, continua a corrodere la società moderna, che lo sviluppo della civiltà dipende dal ripristino di un ordine sociale cristiano. Ma, richiamandosi alle direttive di queste encicliche e dichiarandosi peraltro sempre pronto a ravvedersi sotto la scorta del magistero e della gerarchia cattolica, sostiene che questo insieme di proposizioni sul ruolo direttivo della Chiesa sulla società non può solo essere affermata, ma deve essere dimostrata scientificamente. In particolare, gli studiosi cattolici sono chiamati a dimostrare la necessità dell'influenza della Chiesa sul consorzio civile, tenendo ben presente che, come la costruzione della cristianità medievale scaturì da uomini cristianamente ispirati, la maggior parte delle istituzioni sociali moderne può rimanere pressoché intatta nella sua struttura, a condizione soltanto di mutarvi lo spirito animatore. Ritorna in qualche modo, come vedete c'è una singolare simbiosi delle tesi degli intransigenti e dei cattolici liberali nel Toniolo, riprende lo schema intransigente ma nello stesso tempo ritiene appunto, come avevamo visto con il Tosi, che non si tratti di riproporre la cristianità medievale nelle sue istituzioni e nelle sue strutture, ma si tratta di accettare il mondo moderno cambiandovi lo spirito animatore, mutandone lo spirito. Interpretando assai fedelmente l'impostazione leonina, mi sembra, Toniolo prospettava qui la promozione di una cultura che, senza rinunciare a porsi come apologetica cattolica, in particolare appunto a difesa del ruolo direttivo egemonico della Chiesa sulla società, non si indirizzava però programmaticamente contro il mondo moderno e le sue acquisizioni. Pur accettando la tesi intransigente della necessità di un ritorno alla societas cristiana, alla cristianità medievale, egli proponeva di ricorrere alle scienze sociali così come venivano praticate dai contemporanei, quindi con l'accettazione degli strumenti dei contemporanei, per dare adeguato fondamento agli stessi occhi dei contemporanei alle rivendicazioni sociali della Chiesa. Si trattava, mi sembra, di un aggiornamento in fondo modesto, volto ad usare strumenti nuovi per un fine tradizionale. Tuttavia, esso non solo apriva quel lento processo che avrebbe portato la Chiesa ad una più ravvicinata, concreta, diretta conoscenza del mondo moderno, ricavandone quindi una percezione più realistica, consentiva soprattutto un superamento della demonizzazione della modernità. Mi pare che questa sia la conclusione. Se all'inizio del Kulturkampf l'interpretazione della civiltà moderna come oscura congiura satanica contro la Chiesa era ancora sostenuta da larghi settori della cultura cattolica, alla sua fine essa, mi sembra si possa dire, apparteneva ormai ai più ristretti circoli del tradizionalismo cattolico. Io qui un vivo ringraziamento al professor Menozzi per questa sua relazione che mi pare abbia messo sul tavolo alcune linee interpretative, alcuni criteri di valutazione di largo respiro che si applicano certamente alla cultura cattolica italiana nelle sue varie accezioni e orientamenti, ma che ritengo abbiano delle facili proiezioni e dei possibili termini di confronto in aree culturali non italiane, in questo gioco di rinvii interni e di interazioni che d'altra parte caratterizza propriamente la congiuntura culturale, oltre che quella politica e economica e internazionale degli anni di cui ci stiamo occupando. Il tema che noi trattiamo mi pare ben scelto, anche perché è uno di quei temi che si collocano in un periodo storico in cui gli incroci e le interazioni sono, si manifestano a tutti i livelli. In questo caso il raffronto fatto a partire dalle pronunciamenti di natura magisteriale del pontificato, dell'istituzione ecclesiastica, serve come cartina di tornasole in un certo senso, cioè come punto di raffronto, come pietra di paragone rispetto alla quale le diverse tendenze culturali, che hanno poi delle loro proiezioni sul piano politico-ideologico, oltre che sul piano più strettamente religioso, si manifestano, rispetto a cui esse necessariamente si rapportano. I problemi che Menozzi ha sollevato mi sembrano di grande respiro, di notevole ampiezza, anche diciamo con possibile diversità, diversificazione di interpretazioni. Mi chiedo se dobbiamo utilizzare, anzi lo chiedo al professor Lille, che vedo alquanto perplesso, se dobbiamo utilizzare ancora qualche margine di tempo subito, a caldo, per fare eventualmente qualche primo intervento, o se vogliamo decisamente interrompere. Lo chiedo forse anche agli ascoltatori, se la loro resistenza è ormai giunta al limite ultimo, se qualcuno sta per svenire, se occorrono, non so, conforti di natura materiale oltre che spirituale. Sì, lo so, ma i medievisti non hanno nessun possibile paragone con noi, che siamo contemporanei misti, quindi molto più deboli, soggetti alle tentazioni della carne e caratterizzati da impianti. Ah, ho capito. Era una specie, cioè notoriamente il professor Prodi tifa per la restaurazione di una società cristiana in cui si lavora fino almeno alle 7 della sera, se non alle 8. Non è ancora entrato nella società contemporanea, dove le ore di lavoro si sono invece radicalmente dimensionate e le ore destinate al gioco e alle attività ludiche si sono ampliate. Quindi qui siamo di fronte a un Kulturkampf circa l'uso del nostro tempo, ma io democraticamente mi rimetto all'opinione della maggioranza, incominciando però dal condirettore, dal copresidente di questa tavola. Prego, certo. Allora, io faccio una proposta. Scusate, io sono portato ai compromessi su tutti i terreni, ma soprattutto quando sono così facili da ottenere. Io propongo che dedichiamo ancora, diciamo, una ventina di minuti, anche perché così facciamo contento il nostro ospite, professor Prodi, gli dimostriamo che abbiamo intenzione di lavorare seriamente e non semplicemente di venire qui a godere delle bellezze di Trento. Dedichiamo una ventina di chiedo a Lille il conforto di un suo assenso, una ventina di minuti, incominciando a sentire qualche prima intervento, e poi magari mi fermerei e riprenderei la discussione, farei una discussione in due tappe. In sostanza, così abbiamo anche modo di dormirci sopra questa sera e domani chissà quali domande ci saranno venute in mente da sottoporre al nostro relatore Menozzi. Quindi non sospendo né chiudo la nostra seduta, propongo di andare avanti fino alle 6:15, se ci sono delle domande naturalmente. Ecco. Padre Martina apre, ci sono, tanto per avere un'idea, c'è qualcuno che già, ha già sulla punta della lingua degli interventi che vuole intervenire su questa relazione? O vuol prima sentire Padre Martina così si regola? Che cosa? Nessuno? Lil? Vabbè, allora poi magari... Weber? Scusate, allora a questo punto mi segno i nomi. Padre Martina, Lil e Weber. Va bene, poi mi tengo di riserva nel caso che si trattasse di riempire poi qualche minuto. Chiosso. Allora, Chiosso dopo Weber. Allora, Padre Martina. Basta. Se no andiamo avanti. Sì, sì, vediamo. Ecco, pregherei interventi non troppo lunghi, ma però con calma, perché abbiamo, e anche direi al relatore che può poi riservarsi di rispondere domani, così ci pensa sopra, magari stanotte non dorme, passa tutta la nottata a riflettere sulle domande che gli sono state fatte. Io direi, prima di tutto, che sono perfettamente d'accordo con il professor Menozzi, quindi mi trovo nella stessa linea, sostanzialmente direi quasi in pieno, e vorrei soltanto aggiungere alcune cose per confermare quello che ha detto. E, prima di tutto, nelle condanne della massoneria ci sono, che sono frequenti in Pio IX, ci sono questi principi generali di un attacco generale di tessuto in tutto il mondo contro la Chiesa. E qui potrei proprio riprendere alcune mie pagine. Cito prima di tutto un testo poco noto, anche se pubblicato negli atti di Pio IX, è un testo rivolto a un oscuro sindaco del Brasile. Mai prima di oggi la Chiesa si trovò esposta ad una persecuzione che, scatenata simultaneamente in tutte le parti del mondo e animata da identico spirito, accumulasse contro di essa le armi della potenza, delle pubbliche leggi, della frode, del sofisma, della calunnia, dello scherno. Ciò dimostra che tutto è sorretto e disposto da un'unica mente, che altra non può essere se non quella dell'eterno avversario di Dio, il diavolo. Fu egli a porre la prima orditura di questa tela nelle conventicole dei suoi seguaci, detti framassoni, e di lì a poco andò intessendola e svolgendola. Cioè, in sostanza, Pio IX sostiene che c'è una congiura universale contro la Chiesa che ha una sua organizzazione strettamente legata. Non si tratta di tentativi diversi non coordinati tra loro, ma strettamente legati e strettamente coordinati. E quindi, naturalmente, la prima cosa che si può osservare è questa. Questa tendenza appare più volte nella storia, risponde ad un'esigenza psicologica. Si sviluppa nell'opinione pubblica un'immagine che finisce per deformare la realtà, ma scioglie molte tensioni, scaricando su un capro emissario la responsabilità di una data situazione storica. E si potrebbero citare altri esempi, i miti che nascono nella storia. Il mito, c'è il mito dell'antigesuitismo, ogni tanto i gesuiti sono colpevoli di tutto. E c'è il mito dell'anticlericalismo, e c'è il mito dell'antisemitismo, che non dobbiamo dimenticare, tutta colpa degli ebrei. Adesso per Pio IX tutta colpa della rivoluzione, tutta colpa della massoneria. Per gli anticlericali tutta colpa dei gesuiti. Un fatto quindi abbastanza comune. Un altro testo che si potrebbe osservare è il frequente paragone che ricorre negli scritti di Pio IX più diretti, più sfoghi autografi, tra Cristo e Belial. Qui il nome e il ricordo di Belial ritorna più volte negli scritti di Pio IX, e studiosi moderni di alcune scuole spenderebbero volentieri il loro tempo per darci il computo esatto dei passi nei quali ricorre questo nome, cioè il numero preciso delle citazioni, e magari si oppone a questo, si potrebbe opporre a questa cifra la frequenza ben determinata statisticamente dei nomi suavità, dolcezza, gioia, pace, armonia, concordia che appaiono negli scritti di Giovanni XIII. E qui ricordo invece alcuni testi di Pio IX. Quale transazione può sperarsi tra Cristo e Belial? E in un altro, una locuzione fatta ai francescani, che è riportata dal generale dei francescani Venanzio da Celan, noscitis ait summus pontifex, noscitis teterrimum sane atque inexorabile bello, excitatum inter lucem et tenebras, inter veritatem et errorem, inter vitium et virtutem, inter Belial et Christum. E nel discorso del 17 settembre 1876 ai pellegrini savoiardi, e gli dice: l'enfer s'agit, le dragons paraient déchaîner, les enfants de Belial se multiplient et redoublent de haine et de fureur. Quindi questo confronto, ricordo dell'opposizione tra Cristo e Belial è molto frequente. Ripeto, soprattutto mi colpisce la genericità delle accuse, che poi finiscono proprio per essere svalutate proprio per questa genericità. È una tendenza psicologica soprattutto dei momenti più difficili, ma non è soltanto dei cattolici, è anche qualche volta dei non cattolici, degli anticlericali. Rimane il problema, e qui poi si dovrebbe dire tutti i nomi di questa lista, che largo posto ha questa cultura, e ci sono tutta una serie di miei grandi amici, gli Scotton, i Paganuzzi, gli Albertario, eccetera, eccetera, una lista che non finirebbe più, e vescovi degnissimi che si trovano martellati continuamente da accuse perché non sono abbastanza duri, e qualche volta dei vescovi fedelissimi alla Santa Sede dicono: ma qui non se ne può più, se andiamo avanti di questo passo, come Monsignor Bindi e come Monsignor Farina di Vicenza, e qui il discorso sarebbe molto lungo. Resta il problema: fino a che punto l'intransigenza, che certamente si accentua con la fine del pontificato di Pio IX e rappresenta l'aspetto negativo del suo pontificato, è dovuto al Vaticano prima, al problema all'infallibilità, alle forze, queste forze della reazione, è dovuto alla presa di Roma, e quali sono i fattori che hanno influito nella diffusione di questa mentalità? E soprattutto resta l'altro problema: che parte rappresenta che questa cultura così bene descritta dal professor Menozzi, e che io condivido, ripeto, rappresenta nel mondo cattolico? Certamente è un peso fortissimo, non direi che sia l'esclusivo, stavo anch'io, avevo notato Toniolo qui tra quelli, poi l'ha citato anche lui, ecco. Ma forse fuori d'Italia, specialmente in Francia, c'è qualche cosa di uno spirito un po' diverso, o tra gli episodi che si potrebbero, tra i testi anche che si potrebbero citare, qui vi cito soltanto uno, ecco, in Francia nel 1875 si fa una grande celebrazione, non solo in Francia, in onore del Sacro Cuore, e si pone la prima pietra del Tempio del Sacro Cuore, e sopravvennero però le esagerazioni di qualche oratore che esclama: nelle fondamenta del nuovo Tempio vogliamo seppellire per sempre i principi del 1789 e della Chiesa Gallicana. E qui il problema si allarga alle deviazioni nazionalistiche e conservatrici della devozione al Sacro Cuore. E c'è anche un testo che dimostra tutta l'intransigenza di Pio IX negli ultimi tempi, un testo un po' inedito, era nella segreteria di Stato, uno sfogo autografo. È da lungo tempo che si vanno pubblicando articoli sul Vaticano. Non occorre dire che questi articoli sono una serie di spudorate menzogne. Tutto questo mira a falsare l'opinione e per indurre in errore certi lettori, i quali si persuadano, nella loro bonomia, che al Vaticano si trattano conciliazioni. Si sappia una volta, sono un autografo di Pio IX, che si sappia una volta per sempre che i principi del Vaticano sono gli stessi oggi come lo erano ieri. Sillabo, Concilio Vaticano, proteste messe in tante occasioni. Il Vaticano è sempre lo stesso e Dio, come lo protesta nel passato, lo proteggerà in avvenire. Di questa dichiarazione fu ordinata l'inserzione nei fogli cattolici da chi poteva ordinarla, e quello che l'ha ordinata aggiunge alle antiche proteste quelle con la quale esclude qualunque sua relazione, anche indiretta, con gli uomini che spogliarono la Chiesa. E il breve che approva la Società della Gioventù Cattolica comincia con le parole «Dum fili Belial», sempre la solita immagine. Però, ripeto, bisognerebbe trovare in Francia se c'è un'altra tendenza, se tutto questo è sfumato. In Spagna certamente no, ma eccetera, eccetera. Padre Martina bestätigt den Vortrag und ergänzt dahingehend, dass die Verdammung der Freimaurerei bei Pius sehr häufig vorkommt, mit scharfen Urteilen, mit dem Ausdruck der Furcht vor dem Antichrist, apokalyptischer Stimmung, die sehr allgemein andererseits gehalten sind und sich aber auch gegen Bischöfe richten. Also die Furcht vor einer universalen Verschwörung gegen die Kirche nimmt eher sogar zu gegen Ende des Pontifikats, und die Gründe dafür können nur gemutmaßt werden, Unfehlbarkeitsdogma, Einnahme Roms und so weiter. Anders ist die Situation in Frankreich. Per questa sera si riserva di intervenire magari domani in apertura. Tocca al professor Weber. Ho l'impressione che qui ci sia una fuga a domani. Era iscritto il professor Chiosso. Non posso fare altrettanto, quindi, anche se le cose, nel senso, potresti, va. Sì, se però non so, mi pare una scortesia, non so, l'amico Daniele non. Ma la mia è più che una domanda, è una riflessione che andavo svolgendo mentre lui parlava. Nella sua bella relazione si coglie questo faticoso passaggio, mi sembra che poi lui ha così ben descritto, questo faticoso passaggio verso la modernità, questo complesso e travagliato approdo verso un giudizio meno negativo di quei processi di cambiamento che erano in corso nella società. Io in questo, mentre lui parlava, pensavo a come una larga parte del mondo cattolico italiano entrava in contatto in quegli stessi anni, 70, 80, con i prodotti della modernizzazione che erano indotti dalle trasformazioni sociali e produttive in corso in quegli anni. Stavo pensando a come l'incipiente industrialismo, la libertà di stampa e la forza stessa di penetrazione della stampa, i processi di scolarizzazione cambiassero i connotati direi alla base stessa della cattolicità. Stavo pensando in questo momento a una figura come Don Bosco che apriva i laboratori per gli artigiani, voglio dire, faceva propri quelle trasformazioni che a livello intellettuale, che con un approccio culturale erano così faticosamente acquisite, nella poi attuazione pratica mi sembra che le cose fossero anche più semplici e le risposte più immediate, probabilmente meno velate da difficoltà di ordine concettuale. Quindi la mia era più una riflessione di questo genere che una domanda, io credo di aver anche preso meno del tempo che mi era. vorstellen ist, wie wurde der Kontakt von diesen hier im Vortrag genannten überhaupt hergestellt, der Kontakt zur Modernität, zur Industrialisierung, Pressefreiheit und so weiter. Und es zeigt sich, dass das in praktischer Hinsicht tatsächlich einfacher ist als in der konzeptuellen Hinsicht. Dass also ein Don Bosco praktisch tätig sein kann und sozusagen sich der Moderne anschließen kann, eher als das geistig geschehen kann. Grazie. Ma no, ti assicuriamo di il nostro seminario, io, come si diceva, non sacra per omnis, se omnis per sacra, mutare, eccetera. Così le relazioni sono fatte per la discussione e non viceversa. Certo. Cioè vedo con molto dolore la discussione lontana dalla relazione, perché secondo me non è un progresso e non serve. Come le discussioni fatte a capo. Io capisco che siamo cristiani, quindi certo. Però ecco, occorre confermare il principio che questo non è un congresso, ma è un seminario, scusate la mia differenza, ma le discussioni a caldo sono un'altra cosa, sono la continuazione di un magistero fatto in un certo modo da parte del relatore e non una congressuale discussione a freddo. Scusate, ma volevo richiamarlo perché sennò si è andato un intervento prima forse. Naturalmente ringraziamo Paolo Prodi per questa ulteriore precisazione che credo fosse peraltro chiara a tutti. La mia non era altro che una battuta forse infelice, intendevo soltanto sottolineare, cosa che nessuno credo vorrà negare, che oggi abbiamo lavorato abbastanza, anche perché la nostra operazione è un po' quella di guadagnare tempo, nel senso che abbiamo cercato di tenerci uno spazio libero per domani pomeriggio. Questo ha certo provocato un certo accumulo. È vero che le discussioni a caldo sono più calde che le discussioni a freddo, che sono più fredde, però si potrebbe anche tentare domani verificare se per caso una discussione a fredda non possa diventare calda. Alcuni temi sollecitati dal nostro relatore, forse grazie anche allo spirito caustico del professor Lilla, del professor Weber, del sottoscritto e di altri, potrebbero ridare fuoco e calore ad una discussione anche collegata direttamente alle impressioni suscitate, ai sentimenti suscitati dall'intervento, dall'ottimo intervento molto ricco del professor Minozzi. Aveva chiesto la parola ancora il professor Schiera, a cui la do volentieri. E poi vediamo, insomma, io non porrei limiti di nessun genere, vediamo un po' qual è l'atteggiamento degli spiriti e dei corpi. Prego, benissimo, Piero. Benissimo, volevo anch'io riallacciarmi a questo richiamo che è stato fatto sulla tema della modernità, no? Che mi sembra che c'è letteratura si parla molto bene, non so niente di queste cose, ma mi pare molto realistico. Thank you. cui si guarda in maniera molto determinata in Italia negli anni 70 e nei primi anni 80, a cui guarda in modo particolare Carniolo, sono le scienze sociali, non esoziali, stati tedeschi, che si rifanno in modo particolare a questa tematica di socialpolitik, che è socialpolitik non a caso, che si rincarna dal punto di vista operativo e istituzionale. Allora, tutto questo, io non so che significato profondo abbia rispetto al problema del cattolicesimo italiano, non ha nessun significato, però rispetto invece al quadro di interesse del nostro seminario, che è anche più dedicato al rapporto tra cultura, tra mondo culturale italiano e mondo tedesco, secondo me qui c'è un piccolo cortocircuito che meriterebbe di essere approfondito. E di nuovo ripeto il tasto, il nuovo l'interruttore che fa scattare così voi è la modernità. Quindi sono molto grato, volevo dire che ero contento. Vuole brevemente. Ja, Professor Skerer hat angemerkt, dass beim Übergang zur Modernität auch außerhalb des, des Katholizismus es interessant ist, das Verhältnis Italiens zu Deutschland zu beobachten, gerade weil auch mit Toniolo geschlossen wurde. Da kam der Hinweis auf Gustav Schmoller, also die Orientierung Italiens an den Sozial- und Staatswissenschaften in Deutschland markieren einen entscheidenden Schritt zur Modernität, und die Frage ist, inwieweit hängt das zusammen mit dem hier geschilderten Versuch, die katholische Kirche in die Modernität zu integrieren. Vogliamo chiudere? Lasciamo le risposte domani. Va bene, allora una prima risposta, ma sia chiaro che si tratta solo di un primo tempo. Con intervallo? Sì, dalle... Senza spot pubblicitari. Senza spot. Dalle parole che diceva prima Tragnello era che mi si voleva rimandare a domani per arrostirmi sostanzialmente, per avere il tempo per mettermi cioè, a gratire. Va bene, no, io no, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti perché hanno apportato tagli e... angolazioni diverse a questo lavoro, quindi mi danno occasione appunto per ulteriori riflessioni e approfondimenti. Solo piccolissime cose, cioè a Padre Martina ricordo che c'è una corrente anche in Francia, che non è probabilmente corposa né come quella italiana né come quella tedesca, ma c'è anche una corrente dell'intransigentismo in Francia, penso ad esempio al Cardinal P, insomma, ecco, appunto, che sostengono queste stesse tesi che abbiamo visto e che si prolungano in maniera al di là appunto di questo arco cronologico. Ecco. Così come appunto all'amico Chiosso direi che indubbiamente è vero, cioè c'è un rapporto con la modernizzazione poi così come avviene concretamente nei fatti, ecco, mi pare che qui sia importante tenere presente la distinzione accettazione degli strumenti moderni, non accettazione della modernità in maniera complessiva, insomma, ecco, quindi si vive nel tempo moderno si prendono gli strumenti, si rigetta la legittimazione di questo tempo e del suo modo di operare, ecco, credo che sia un po' questa la via compromissoria con cui poi parecchi vivono concretamente, accettano concretamente il mondo moderno. Ecco. Ringrazio anche Stiere, non ho niente da aggiungere a quello che ha detto, se non appunto l'impegno a rifletterci sopra, che mi sembra stimolante, insomma. Ecco, grazie. Grazie. Chiudiamo la nostra seduta di oggi, e appuntamento domani alle 9:15, in modo che abbiamo tempo di riprendere la discussione, ci sono alcuni iscritti a parlare fin da questa sera, che sono pregati di intervenire domani, e poi ci saranno le due relazioni. Domani pomeriggio invece avremo il pomeriggio libero, come abbiamo previsto. Oh. per tre quarti d'ora o giù di lì, fino verso le 10, con il seguito della discussione sulla relazione di Daniele Menozzi, discussione per la quale esistono già alcuni scritti. Poi di interrompere 5 minuti, ma non più di 5 minuti, proprio solo per segnare una pausa, e quindi procedere con le due relazioni che sono previste dal programma per questa mattina. Dunque, ieri avevano chiesto di parlare il professor Lill, il professor Weber, che aveva rimandato ad oggi, anch'io mi ero segnato come possibile interlocutore. Ci sono eventualmente altri che desiderano intervenire sulla relazione? Lirman, Becker, vedo che la notte ha portato consiglio, no? O sconsiglio. Scusi, i nomi laggiù. Risi, Rota. Perfetto. Bene, visto che gli iscritti sono piuttosto numerosi, pregherei tutti di mantenersi entro limiti di tempo ragionevoli. E do il microfono al professor Lill. Ich möchte zunächst eine Bemerkung machen. Es zeigt sich ja aus dieser sehr gründlichen Darstellung ein Grundproblem, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass es nämlich nicht nur um konkrete Auseinandersetzungen über das Equilibrium zwischen Staat und Kirche geht, sondern um eine globale Vision von Geschichte und Gesellschaft. Ich glaube, dass wir dies immer im Hintergrund haben müssen, auch im Vergleich etwa mit Deutschland und mit der Schweiz. Ich wollte nur diesen Gesichtspunkt in Erinnerung bringen, weil wir darauf wahrscheinlich noch öfter zurückkommen werden. Allora volevo solo accennare al fatto che proprio dalla relazione di ieri si vedeva di nuovo che i Kulturkämpfe non sono soltanto conflitti tra Stato e Chiesa per un nuovo e più giusto equilibrio delle reciproche influenze, ma che si tratta di un conflitto di fondo che passa per tutto un secolo su due, cioè tra due grandi concezioni di storia e società. Torneremo, spero, ancora, per esempio, domani nella relazione di Meyer a questo punto di vista. Und dann zwei kurze Fragen, due domande. Haben die von Ihnen untersuchten Zeitschriften und Bücher wirklich konkret rezipiert, was auf der anderen Seite, also etwa im protestantischen, liberalen Deutschland, gleichzeitig über dieselben Probleme geschrieben worden ist? Wie verhält sich der Rezensionsteil der Civita Cattolica? Und daran anschließend eine Bemerkung, die auf Hans Kehrer eingeht. Gibt es einen Weg zur Modernisierung oder mehrere Wege zur Modernisierung? Und er hat insistiert auf einem großen deutschen Modell, aber ist nicht dieses Modell der deutschen Staatswissenschaften nur in einem sehr begrenzten Kreise italienischer Wissenschaftler rezipiert worden? Und haben sich die Mehrzahl der Intellektuellen in Italien an anderen Modellen orientiert, wenn sie überhaupt sich an ausländischen orientierten? Cioè, in qual modo queste riviste conservatrici cattoliche hanno discusso, hanno recepito e discusso la letteratura contemporanea che veniva dall'altro versante, cioè dalla Germania protestante? E poi per rispondere o per mettere una domanda che si riferisce a Schiera, esiste un solo modello di modernizzazione oppure ci sono varie strade verso modernizzazione? E era tutta la classe dirigente, cioè la classe colta italiana, orientata verso quei modelli di cui Schiera ha parlato, oppure si trattava solo di gruppi ristretti, mentre altri gruppi intellettuali italiani si interessavano semmai per tutt'altre, in tutt'altre direzioni. Grazie, professor Weber. Zwei kurze Fragen. Die eine betrifft die Konzeption der satanischen Weltverschwörung, die es natürlich nicht nur in Italien gibt, sondern auch in Deutschland. Es gibt da eine noch wenig beachtete Literatur gewissermaßen unterhalb des Livello Scientifico, gibt es eine Literatur für halbpopuläre Literatur von Freimaurerverschwörungen, die sich verschworen haben, Thron und Altar umzustürzen. Welche Pfarrer haben solche Heftchen veröffentlicht? Jetzt ist für mich nur folgende Frage. Haben diese Autoren an die wörtliche Wahrheit dieser Verschwörungsthese geglaubt oder, was ja auch möglich wäre, haben sie es symbolisch gemeint? Wenn man Bourfontin nennt, die Verschwörung der Jansenisten, die im 18. Jahrhundert ein großes Ideologem der konservativen katholischen Seite war, wurde versucht, auch die historische Wahrheit, die eigentliche wörtliche Wahrheit einer solchen Verschwörung zu postulieren. Haben Curci und diese Leute es wörtlich gemeint? Die zweite Frage ist die, ich bin immer wieder überrascht und auch hier bestätigt es sich mit Namen, die ich noch nicht kannte, dass es in Italien einen Teil des Episkopats gab, der durchaus in Anführungsstrichen liberal, Conciliatorista, versöhnlich auch nicht nur dem Staat, sondern auch der modernen Wissenschaft gegenüber. Die beiden Doppelsterne Bonomelli und Scalabrini haben sie gar nicht erst genannt. Gastaldi, aber auch weniger bekannt wie Battaglini, Capicellato, aber auch sein Nachfolger San Felice. In Deutschland gab es solche Bischöfe mit dieser speziellen Unctio Spiritualis nicht. Wir haben zwar den sehr staatsfreundlichen Fürstbischof Kopp, der mit Bismarck zusammenarbeitet, aber jene spezielle spirituelle Struktur oder spirituelle Physiognomie dieser Bischöfe sehe ich im deutschen Episkopat nicht. Wie kamen diese Bischöfe überhaupt auf ihre Sitze? Forse subito in italiano, ma un po' rotto. La prima domanda era se questa congiura di Satana e della sinagoga di Satana era preso sulla lettera di quelli che lo scrivevano o era già da loro concepito come un mito. Questo non sono molto chiaro. E l'altra domanda era come era possibile che nel episcopato italiano fossero più personaggi di una spiritualità rosminiana, liberale, conciliatrice, che in Germania in questa misura e anche in questa spiritualità marcata non esisteva. Anch'io volevo intervenire molto brevemente su due punti. Il primo riguarda l'uso della teoria della spiegazione degli attacchi fatti alla Chiesa e con la Chiesa ad una civiltà, ad un sistema di civiltà da parte del mondo moderno secondo la genealogia degli errori che tende a riportare il momento della frattura e del conflitto a Lutero, alla Riforma, ma indirettamente a cause che potremmo definire ultraterrene, cioè agli interventi appunto diabolico. Quello che io definirei la teoria del complotto, che si è esplicata, che si è manifestata con chiarezza nell'interpretazione della Rivoluzione francese dell'abate Barruel e che è diventata paradigmatica. D'altra parte i richiami a quella interpretazione nei riguardi della rivoluzione, questa volta italiana, cioè nei riguardi del risorgimento, sono evidenti. Ora, io non sottovaluterei la teoria del complotto dal punto di vista della interesse che essa presenta, non che Daniele Menozzi non l'ha sottovalutata, ma qualche volta anche nella storiografia si tende a liquidarla come il segno di una, diciamo, incapacità di comprensione dei fatti reali, ma questo è, diciamo, una tautologia. È evidente che la teoria del complotto non spiega i fatti reali. Il punto è che la teoria del complotto ha una sua aggancio, è, diciamo, il tentativo, o se vogliamo il riflesso sul piano della interpretazione della storia, di un certo tipo di teologia della storia, secondo me. Dietro la teoria del complotto c'è una teologia della storia. Ha una sua efficacia persuasiva, perché indica dei responsabili, cosa fondamentale anche dal punto di vista della pedagogia della Chiesa, indica dei responsabili, individua delle colpe, stabilisce delle responsabilità e quindi delle funzioni e mette in atto delle contromisure. La teoria del complotto è anche quella che consente alla Chiesa di attivare delle risposte che in teoria dovrebbero andare in direzione opposta a quella del complotto, che è l'organizzazione, che è quella di rispondere alle forze organizzate del complotto, dominata da Satana, con forze organizzate della Chiesa, che è la risposta di tipo spirituale, per esempio. C'è, secondo me, una spiritualità dell'anticomplotto, ha delle conseguenze sul piano religioso. L'elemento che Menozzi ha messo in luce molto bene, secondo me, su cui è stato molto chiaro, è che la grande trasformazione che avviene o che incomincia ad avvenire sulla fine del secolo è che la teoria del complotto si dimostra non reggere più e che quindi bisogna sostituire qualche cosa d'altro alla teoria del complotto. Sostituendo alla ricerca di qualche altra spiegazione dei fatti storici, avviene questo processo che io definirei di modernizzazione, perché la modernizzazione consiste proprio nel fatto di tentare di individuare delle cause razionali e quindi discutibili per la spiegazione di fenomeni storici che altrimenti restano affidati a cause estranee, irrazionali o comunque sovrumane. Ecco, che è il grande passaggio che avviene attraverso l'uso di strumenti di interpretazione della realtà storica che non seguono più, delle logiche così monolitiche, vero? In cui tutto viene fatto risalire ad una causa, ma per esempio la moltiplicazione delle cause che producono i fenomeni storici è un aspetto tipico di una modernizzazione culturale. Non è più possibile individuare una causa, e questo significa per esempio un mutamento di visione teologica, perché se la causa è soltanto Dio o se è soltanto il demonio, però la storia è relativamente semplice da interpretare. Se l'immagine di Dio e soprattutto l'immagine del demonio si decompone, si scompone, le cause si intrecciano, non è più ben chiaro dove sta il bene e il male, quali sono le ragioni dell'operare umano, a questo punto la teologia della storia, la visione teologica della storia deve necessariamente complicarsi ed occorre mettere in moto degli strumenti interpretativi, che sono gli strumenti delle scienze sociali, dell'economia, dell'analisi dei fattori politici, che sono molto più complessi. Questo mi pare il punto cruciale, e quindi cambiano anche gli strumenti, perché evidentemente se le cause sono complesse, le risposte devono essere complesse, non possono più essere semplicemente le condanne papali di nessun genere o gli interventi autoritativi di altra natura. Brevissimamente, secondo punto, Daniele Menozzi ha parlato di intransigenti, di cattolici liberali. Non vorrei ritornare su questa questione che poi può essere di lana caprina, come diciamo noi italiani, cioè una questione forse troppo sottile. Per alcuni dei personaggi da lui citati io userei con cautela il termine di cattolici liberali. Un Enrico Cenni è un cattolico moderato, un cattolico conciliatorista o, se vogliamo, un cattolico transigente. Il liberalismo, il rapporto suo con il liberalismo, con le idee liberali, mi sembra molto mediato e indiretto. Quindi io forse li chiamerei piuttosto cattolici moderati, per riservare il termine liberali a categorie, a uomini che hanno nel passato, ma anche in quell'epoca, uno spessore anche di atteggiamento teorico maggiore e in definitiva più impegnativo. Professor Traniello nimmt Bezug auf die Theorie zur Erklärung der Modernität, also auf die Genealogie, die mit Luther den Wendepunkt sieht und dann den Höhepunkt in der Französischen Revolution, seit der Französischen Revolution die vielfältigen Ansätze zur Erklärung dieser modernen Entwicklung. Diese, was er nennt, die Theorie des Komplotts, soll aber nicht unterschätzt werden als Unfähigkeit, die Geschichte zu begreifen, sondern als Versuch einer Theologie der Geschichte, die dazu führen kann, die Verantwortlichen für diese Entwicklung aufzuzeigen, also Schuld zuzuweisen und zugleich Gegenmaßnahmen möglich zu machen. Er spricht deswegen von einer Spiritualità dell'anticomplotto, also der Versuch, diesen Komplott wiederum ideell zu bewältigen. Diese Theoria del Complotto ist gegen Ende des Jahrhunderts nicht mehr tragfähig. Es wird stattdessen versucht, mit rationalen Gründen die Modernität zu erklären. Die historische Realität kann nicht mehr monolithisch mit Gut, Böse oder Gott bzw. Teufelswirken erklärt werden. Die Komplexität der Moderne, muss eine Komplexität der Erklärung entsprechen, die neuer Instrumente der Analyse und der wissenschaftlichen Erklärung und des wissenschaftlichen Verständnisses bedarf. Der zweite Punkt ist eine terminologische Korrektur, dass man zum Beispiel im Fall von Enrico Cenni wohl besser nicht von Cattolico-Liberale spricht, sondern von gemäßigten Katholik oder Conciliatorista, nicht Liberale. Grazie. Ti restituisco la parola perché... No, proprio vorrei aggiungere subito a quello che hai detto tu, che è interessante, la prima cosa che ho trovato molto interessante era che tra intransigenti e cattolici liberali o cattolici moderati non esiste una scissione chiara, piuttosto c'è un flusso di posizioni, diciamo. E anche in questo campo si vede benissimo che... si mescolano scopi spirituali, ideali per un rinnovamento della Chiesa o per un rinnovamento del rapporto Chiesa-Stato con scopi politici, per esempio federalisti, autonomisti, soprattutto nel sud d'Italia. Anche quello è ben visibile in Germania. Ich wollte noch anfügen, dass einmal diese, also die Tatsache, dass man nicht klar unterscheiden kann zwischen Intransigenten und liberalen Katholiken oder moderaten Katholiken, dass da ein fließender Übergang ist, das fand ich besonders interessant. Und dass auch hier, wie meines Wissens auch für Deutschland, sich ideelle Ziele mit politischen kombinieren lassen. Also dass das gilt in Italien zumindest vor allen Dingen für das Föderalismuskonzept, dass also die katholische Liberali Vertreter des Föderalismus sind und zumal in Süditalien des Autonomismo. Grazie. Professor Becker. Ich möchte drei ganz kurze Fragen stellen, die etwas aus dem Umkreis Ihres Referates hinausführen und dafür auch um Entschuldigung bitten, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Und zwar in Bezug mehr auf mein Referat und auf das, was Herr Weiß gestern vorgebracht hat. Meine Frage zielt dahin, hat die italienische katholische Staats- und Geschichtslehre, Staatslehre auch, nicht auch einen konstruktiven Beitrag zu leisten, wenn man sie mit gewissen Ausuferungen der deutschen Staatslehre vergleicht, die zur Rechtfertigung des Kulturkampfs herangezogen wurde, die die Souveränität des Staates sehr stark hervorgehoben und übertrieben hat. Dagegen sind ja doch auf katholischer Seite die Koordinationstheorie etwa, ist die Koordinationstheorie entwickelt worden. Man hat auf katholischer Seite die Idee der Totalität des Staates kritisiert. Gibt es da nicht konstruktive Beiträge? Und drittens, also Koordination, Totalität des Staates, man könnte auch die Neuscholastik vielleicht erwähnen, Luigi Taparelli, der ja doch in Deutschland gewirkt hat, wenn auch das noch nicht so sehr aufgezeigt worden ist. Und die dritte Frage betrifft das den sozialen Bereich. Ich weiß nicht, ob man eine Einbahnstraße konstruieren kann, von Deutschland, Schmoller nach Italien. Gibt es nicht auch eine umgekehrte Möglichkeit? Im Anschluss daran nur ganz kurz die Überlegung, wenn man das Mittelalter in den Vordergrund stellt, wenn man Modernismus kritisiert, dann kann das auch ein Beitrag zur Modernität sein, weil man nämlich, indem man auf den Vorteil der alten korporativen Gestaltungen verweist, sozusagen den Liberalismus und dessen Auswüchse in der Gegenwart attackiert und hier in der Tat auch einige Mängel aufdecken kann. Si sono etwas langsam sprechen. Vorrei ripetere la prima parte. Die erste Frage. Die erste Frage ging dahin, ob nicht ein produktiver Einfluss der katholischen Staatslehre festzustellen ist in Italien bezüglich der Staatstheorie, Koordination, Gleichordnung von Staat und Kirche, Kritik der Totalität des Staates, Rekurs auf den Neotomismus, der ein Anti-Absolutismus war. Man kritisiert doch den Staat und seine Theorie einer absoluten Überordnung des Staates über die Kirche. Meine Frage, ob sich das niederschlägt in dem, was Sie erforscht haben, in Ihren Zeitschriften, und ob es da konstruktive Antworten gibt, die aus dem Kulturkampf eventuell herausgeführt hätten. Non so se ho ben capito questa prima domanda. Se nella dottrina dello Stato dei cattolici italiani esiste, oltre a questa critica dell'idea costruttiva dello Stato, un atteggiamento impositivo, cioè una proposta. E poi si riferiva, mi sembra, alla figura di Taparelli d'Azeglio. E infine la terza domanda, ha parlato piuttosto velocemente, era nel campo sociale, l'influenza reciproca tra i due ambienti tedesco, cattolico, tedesco e italiano. Dottor Mancinelli. Una delle cose che mi sembravano più interessanti era appunto questo collegarsi della corrente transigente e intransigente in un sostanziale, diciamo almeno inizialmente, rifiuto della società moderna. Mi colpiva anche questa lettura moralistica e complessivamente di quelli che erano processi sociali. Allora mi domandavo, un tratto di fondo sembrava l'incomprensione complessivamente da parte cattolica, o perlomeno un giudizio morale su quello che era un processo di tipo storico, cioè un processo di secolarizzazione. Allora domandavo, quanto questo è dovuto a fattori esterni, cioè quindi per esempio all'esistenza di una polemica con lo Stato liberale per esempio in Italia, ma anche in Francia e in Germania, l'esistenza di una questione come quella romana, della quale molti cattolici più illuminati, penso per esempio in Francia al Cochin, a tratti si lamentavano come di una questione che aveva impedito ai cattolici di riflettere su questioni più vitali, su questioni ecclesiologiche. La mia domanda era questa: quali sono i primi cenni da parte cattolica della comprensione dell'esistenza di un processo di secolarizzazione? E poi d'altra parte, qual è un po' il peso, diciamo, del ritardo culturale cattolico, soprattutto sul piano della comprensione della società, ma anche sul piano della comprensione della Chiesa stessa, quindi sul piano ecclesiologico? Nochmal zum Thema Entwicklung, also Zurückweisung der Modernität von Seiten der katholischen Kirche. Es liegt ein Missverständnis vor, das zu einer moralischen Einschätzung historischer Fakten führt. Frage, woher kommt das? Liegt der Ursprung in der liberalen Polemik, auf die dann die katholische Lehre nur reagiert? Wann lassen sich dafür zuerst Anzeichen finden? Und welcher ist dann der positive Beitrag, den die katholische Lehre leisten kann? Ich me ha colpito nella relazione del professor Menozzi una affermazione in cui, in sintesi, si è trovato quello che può essere il punto di convergenza o il comune denominatore per l'individuazione dei cattolici, di chi sono i cattolici in politica, e cioè la convinzione che non si dia società civile, non si dia civiltà senza società cristiana. Volevo semplicemente che il professor Menozzi spendesse qualche parola di più su questo indicatore sintetico dei cattolici in politica, magari con qualche esempio. Die Frage nach dem Zusammenhang von Civiltà und also von Gesellschaft und inwieweit die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, die christliche Gesellschaft zur Basis haben muss. Dazu noch bitte eine Erklärung. Von Ideen gesprochen. Ich habe das Gefühl, unsere ganze Diskussion ist allzu sehr campata in aria, immer wieder nur von Ideen und mit konkreten Menschen. Ich möchte hier an einen konkreten Menschen erinnern, wie sich zum Beispiel in Rheinland die Versöhnung des Katholizismus mit dem preußischen Staat und mit dem Deutschen Reich vollzogen hat. Ein klassisches Beispiel ist Max Braubach gewesen, der Lehrer von Konrad Repken, der ja auch in unserem Kommentator Scientifico ist und den wir alle hier gut kennen. Braubach hat immer erzählt, dass in seiner Familie eine ganz scharfe Ablehnung Preußens war, dass ein Onkel seine Tochter enterbt hat, weil sie einen preußischen Offizier geheiratet hat. In der nächsten Generation, Max Braubach selbst ist selbst preußischer Offizier geworden und sein Bruder ist als General im Polenfeldzug gefallen. Da hat sich innerhalb einer Generation eine komplette Veränderung abgespielt. Man hat dann gesagt, ja, natürlich, wir sind Katholiken, wir sind überzeugte Katholiken, wir wählen Zentrum, aber wir akzeptieren den Staat, wir fühlen uns als Preußen, Rheinpreußen und der alte Gegensatz, der seit der Kölner Wirren bestand, ist hier zumindest teilweise überwunden gewesen. Das ist in ganz kurzer Generation, ich möchte es auch auf Italienisch sagen, vogliamo parlare soltanto di idee, quando le idee si concretizzano nelle vite delle personalità, c'è un esempio, che c'è Max Braubach che era amico di Jedin, ufficiale di carriera che solo dopo il 18 poi è diventato da Alois Schulte che era anche un cattolico convinto, ma un prussiano convinto, e invece il padre di Max Braubach ha ancora diseredittato una sua figlia perché aveva sposato un ufficiale prussiano, e Braubach stesso è diventato un ufficiale prussiano di cavalleria, elegante, di cavalleria di carriera, e suo fratello è rimasto nell'esercito, è diventato generale, è morto subito dal principio della seconda guerra mondiale in Polonia, e Braubach stesso è diventato storico, ha fatto anche la seconda guerra mondiale di nuovo come ufficiale insieme a Parigi, al tempo di occupazione di Parigi, con contatti con la resistenza, ma lui si sentiva prussiano e passato, e lo spiegava spesso. senso che una generazione dall'assolutamente negazione allo Stato prussiano delle famiglie perdenti o delle famiglie di un certo livello sociale sono passati alla Prussia dall'opposizione, pur sempre naturalmente con l'aiuto del centro che anche aveva fatto la pace con Bismarck e con lo Stato prussiano. Prendi uno di quelli volanti, perché sono due circuiti diversi, uno è per filo e uno invece per filo. Sì, bene. Tranquillamente, sì. Dunque, il primo problema che poneva il professor Lille è se veniva o meno recepito in maniera concreta quanto si scriveva in Germania, in particolare da parte evangelica, da parte luterana e prussiana sul Kulturkampf. Direi per quel che ho potuto vedere, non è certamente tutto quello che ho potuto vedere, ci sono varie direzioni di ricerca da approfondire. Ecco, nell'ambito di questi giornali tradizionalisti, in particolare nell'ambito di Civiltà Cattolica, c'è una certa attenzione nei confronti di questo problema, anche se questa attenzione è monolitica. Sostanzialmente il quadro di riferimento concettuale, per rimanere al problema, a questo problema, è dato dagli interventi che fa in Belgio Perrin sul modernismo. Cioè, ormai a questa età, negli anni Ottanta, nasce appunto da parte di Perrin, che è uno studioso appunto noto in Italia come anche in Germania, la categoria di modernismo, come categoria che spiega gli elementi di innovazione e di modernizzazione. E quindi è una categoria di interpretazione negativa, di contrapposizione. Dunque, c'è la consapevolezza di quello che sta accadendo, sia sul piano politico che sul piano sociale che sul piano teologico, ma tutto questo viene ricompreso ed interpretato alla luce di questa categoria, cioè immediatamente dopo l'uscita a Lovanio del libro di Perrin, Civiltà Cattolica acquisisce questo tipo di concezione e la utilizza per spiegare i fenomeni della modernità. È chiaro, ci devono essere altre direzioni di ricerca, non c'è solamente questa, però ecco, questa che ha pure un suo rilievo ed un suo peso mi pare significativa per capire il modo di approccio. Secondo problema, esiste un solo modello di modernizzazione, una sola via di accesso alla modernizzazione? Direi certamente di no. Ecco, qui mi pare che sia abbastanza evidente che il modo attraverso il quale gruppi diversi, e qui definire l'ampiezza è molto problematico, cercare di capire fino a che punto sono estesi. quanto riescono a mobilitare, definire i numeri, le quantità, qui davvero un problema molto molto complesso. Comunque, al di là di questo problema, le vie attraverso i quali gruppi cattolici giungono alla conoscenza e anche ad assimilare gli elementi della modernità sono davvero vie diverse, insomma. Ecco, mi sembra, per rimanere appunto in un ambito di persone che pure si conoscono, che si stimano, che conoscono le proprie teorie, che si stimano, che si apprezzano, Curci, Audisio, Stoppani, Toniolo, sono vie diverse di approccio alla modernità. Ecco, ognuno di loro mi sembra che abbia un suo modello che è diverso, il che probabilmente si giustifica appunto col fatto che siamo agli inizi, insomma, ecco, che ci sono dei tentativi, che le vie da sono tutte da sperimentare e queste persone le sperimentano secondo appunto convinzioni e anche secondo intuizioni varie. Weber, il problema se la concezione della storia contemporanea come congiura sia solamente una realtà o sia simbolo. Ecco, direi che è realtà e simbolo ed è entrambe le cose. Mi pare che anche qui occorre individuare, specificare delle persone che interpretano questo indirizzo in un certo modo. Ecco, cioè, mi sembra che, ad esempio, per il Ballerini, che è uno degli scrittori di civiltà cattolica attivo in questo tempo ed autorevole, che ci sia una congiura è un fatto storicamente accertato. Non c'è dubbio per lui, insomma, questo è un dato di fatto, è una realtà. Ecco, non a caso appunto Ballerini è tra gli scrittori di civiltà cattolica quello che si è occupato anche di stabilire ad esempio la storia della massoneria, è uno di quelli che hanno lavorato sulla storia della massoneria, tra l'altro appunto uno di quelli che hanno dato dei contributi anche storici di un certo interesse in questa direzione, e per lui la congiura esistente in quel momento ai danni della Chiesa è la continuazione della congiura massonica. Non ci sono problemi, questo è un dato di fatto. Ecco, mi pare che se passiamo ad altri personaggi, penso ad esempio al Liberatore, per rimanere nell'ambito ancora degli scrittori di civiltà cattolica, ecco, è per certi aspetti un dato di fatto, è per certi aspetti un modello di interpretazione del reale. All'interno del gruppo di civiltà cattolica mi pare che ci siano appunto delle differenziazioni su questo punto, insomma, ecco. Cioè il Liberatore e il Ballerini mi pare che siano abbastanza diversi. Anche per il Liberatore certamente esiste una congiura, ecco. Nello stesso tempo per il Liberatore si tratta di utilizzare quei pochi dati di fatto che si hanno e che si sa benissimo che si hanno, di allargarli ad una interpretazione del reale che può essere complessiva e può diventare, può acquisire appunto più che valore di simbolo, forse modello di riferimento concettuale all'interno del quale incastonare i fatti con la convinzione che i fatti possono poi smentire quel tipo di modello, insomma. E mi pare appunto che per altri, penso ai cattolici liberali, sia semplicemente appunto si traduca semplicemente nel fatto che esiste nel mondo il male, ecco, e che gli intransigenti non capiscono che quello che loro credono una realtà è semplicemente un simbolo del male. Credo che ci siano appunto queste differenziazioni a seconda degli ambienti e dei personaggi. Sul secondo punto, un episcopato conciliatorista certamente è esistito e che ha avuto anche un suo riflesso, e come mai si ha in Italia. Per me non è un problema al quale posso dare una risposta, posso cercare di fare qualche ipotesi. Due cose mi vengono in mente. La prima cosa è che nell'episcopante italiano ottocentesco esiste una articolazione di posizioni sul problema del rapporto tra chiesa e società e sull'atteggiamento politico. Direi che, faccio un esempio banale, cioè quello ad esempio l'episcopato napoletano davanti alla rivoluzione del 1820-21 si divide, non è un episcopato compatto, vi sono un gruppo di vescovi che accetta la rivoluzione e non sono vescovi secondari, sono 4-5 vescovi, ecco, c'è un gruppo di vescovi che invece la rifiuta e c'è un gruppo moderato che si barcamena. Credo che nell'episcopato piemontese sia lo stesso sostanzialmente, ecco. A partire da quel momento lì in poi, in tutti i momenti successivi, in tutti i momenti, dei grandi momenti di svolta, cioè il 48, il 1848, il 1860, non ritroviamo un episcopato italiano omogeneamente schierato dal punto di vista politico. Quello che forse è interessante è notare che a partire dal 1848 ci sono degli sforzi della Santa Sede per rendere politicamente omogeneo questo episcopato. Questo forse è il dato importante. Ecco. E a me pare appunto indicativo che nonostante gli sforzi della Santa Sede, cioè interventi politicamente pregnanti della Santa Sede di Roma, perché i vescovi si comportino in maniera omogenea dal punto di vista politico, ciò nonostante, ecco, alcuni vescovi continuano ad affermare che questo ambito del rapporto tra chiesa e società, ambito della politica, è un ambito nel quale ci può essere una posizione appunto diversificata, articolata. Ecco, perché questi vescovi sono arrivati ad essere vescovi nonostante questo? Ecco. Anche qui appunto si può pensare che ci sia una certa vischiosità in qualche modo della tradizione italiana per cui si diventava vescovi in primo luogo in quanto si era leali nei confronti dello Stato. Naturalmente dopo il 1860 questo cessa, ma la condizione per diventare vescovi in Italia, diciamo prima del 1860, è duplice. In primo luogo una fedeltà allo Stato, perché è lo Stato che sceglie la terna di nomi da presentare a Roma, e poi una fedeltà alla Santa Sede. Ecco, probabilmente dopo il 1860, in qualche modo, nei meccanismi curiali, che credo bisognerebbe studiare, cioè il problema della nomina dei vescovi, è un problema che mi sembra non è stato ancora adeguatamente affrontato, anche se alcune cose sono state fatte, ecco, probabilmente c'è una vischiosità in questo tipo di tradizione, cioè di lealismo politico, prima che di lealismo e poi anche di lealismo romano, ma insomma in primo luogo di lealismo politico. Insomma, io credo che non possiamo dimenticare che in tutti i concordati italiani che ci sono nel corso dell'Ottocento c'è come clausola discriminante il fatto che il vescovo deve giurare fedeltà allo Stato, al governo, non allo Stato, di più, allo Stato e il concordato napoleonico, al monarca, esattamente, ecco, questo è come? Al monarca, al re. E questo il concordato è il vescovo sovrano. Vescovo sovrano. Vescovo papa. Esattamente. In tutti i concordati c'è questo, in tutti i concordati italiani ottocenteschi. Questo insomma è un fatto che in qualche modo credo abbia una sua vischiosità anche dopo l'unità. Ecco. Niente, e forse anche alcune altre cose, cioè molto rapidamente nella carriera di alcuni vescovi mi sembra ci siano delle modificazioni, ecco, c'è il fatto che poi la realtà spinge e induce a cambiare. Tragnello, io non, devo dire che accetto come un'esplicitazione, un chiarimento quello che ha detto. Una sola brevissima cosa per quanto riguarda il Cenni, indubbiamente è vero, Cenni è un moderato, Civiltà Cattolica lo considera un cattolico liberale. Sì, sì. Ecco, quindi se si parte da quel punto di vista è chiaro che c'è il sì, ecco. Lieberman, sì, cioè anche qui mi sembra che sia vero, c'è indubbiamente questa continua interazione tra elemento spirituale ed elemento politico nell'ambito degli intransigenti. Ecco, mi sembra che c'è appunto una continua confusione tra il politico e il religioso che non viene risolto. Ecco, il problema che pone Becker sono problemi molto, molto grossi, appunto problemi molto, molto significativi. Mi soffermo rapidamente su due cose, cioè se c'è un contributo costruttivo alla teoria dello Stato da parte dei cattolici intransigenti ed in particolare da parte di Taparelli d'Azeglio. Ecco, direi indubbiamente per certi aspetti sì, c'è un apporto costruttivo, insomma, ecco, lo stesso sforzo appunto di Taparelli di definire un diritto internazionale che regoli i conflitti a livello internazionale, che forse appunto è il suo apporto più significativo, mi sembra un dato molto interessante e importante. Però ecco, credo che sia importante proprio l'esempio del Taparelli per ricordare questo fatto. Ma chi è il giudice dei conflitti internazionali? È il Papa. Dunque, è vero che c'è un apporto positivo, che c'è uno sforzo di elaborazione, che costituisce indubbiamente un dato di crescita complessivamente nella conoscenza giuridica e anche nella dottrina dello Stato. Ma alla fin fine gli elementi discriminanti, gli elementi decisivi ritornano sempre all'interno dello schema del fatto che lo Stato ha una funzione ministeriale nei confronti della Chiesa. Credo che da questo punto di vista Liberatore vada più avanti di Taparelli, cioè Liberatore è disposto ad accettare qualcosa di più di quello che non accettava Taparelli della modernità, ed anche mi pare che approfondisca di più certi aspetti che lei stesso ha richiamato, insomma, ecco, che sono gli aspetti poi tipici della cultura politica dei cattolici, cioè quelli dell'autonomia dei soggetti intermedi, insomma. Ma anche qua, a quale condizione? A condizione che lo Stato svolga un ruolo ministeriale nei confronti della Chiesa su alcuni punti, e in particolare quella della libertà religiosa. Su questo c'è un elemento cruciale, mi pare discriminante, insomma, ecco, si accetta o non si accetta la libertà religiosa? E su questo punto da parte degli intransigenti mai e poi mai si giunge ad accettare la libertà religiosa, così si può dire che il ministero che lo Stato svolge nella Chiesa può essere fatto in diversi modi, però la concezione è che lo Stato non è autonomo. Lo Stato è subordinato ai fini che solo la Chiesa può decidere, e questo è un dato che non cambia. Se la critica al Medioevo può essere un contributo alla modernità, ecco, anche qua, insomma, ecco, io ritornerei appunto per certi aspetti sì, cioè le società intermedie, insomma, ecco, i soggetti autonomi nella vita le comunità intermedie sono un contributo significativo, importante. Ma ecco, tutto questo però è giocato nella cultura intransigente, ad esempio, a favore delle corporazioni. E il sistema corporativo viene visto appunto come sistema di un ritorno al passato, di un ritorno indietro. Nel sistema corporativo l'autonomia dell'individuo e l'autonomia del gruppo intermedio non sono riconosciute. La corporazione, negli scrittori di Civiltà Cattolica, alla fin fine deve riconoscere come elemento guida il direttore spirituale. Chi risolve i conflitti all'interno della corporazione? È il sacerdote. Quindi è comunque, insomma, una società di carattere sacrale e ierocratico, dallo Stato alle comunità intermedie, che viene riproposta. Quindi contributi sì, ma contributi che per gli intransigenti rimangono però all'interno appunto di un quadro che è comunque un quadro di tipo ierocratico. Mancinelli, molto rapidamente, quando comincia il processo di secolarizzazione, quando si comincia a capire nell'ambito cattolico il processo di secolarizzazione. Ecco, io direi che Curci, tra i nomi per restare, insomma, ecco, per non andare a Maritain, tutto sommato, perché forse può essere la filosofia di politica, per rimanere in quest'ambito, Curci è sicuramente un personaggio che forse più che capire la secolarizzazione l'accetta e la giudica positivamente. Cioè la secolarizzazione è un'occasione data alla Chiesa per ritornare al suo ministero proprio, che è il ministero spirituale. Questo è insomma, forse non ne capisce fino in fondo le portate e il significato, però dice, questo è un dato che c'è, non possiamo non tenerne conto, non solo c'è, ma può essere utilizzato positivamente dalla Chiesa. Può diventare l'occasione perché la Chiesa appunto si liberi di tutto questo apparato della società cristiana e ritrovi quello che le è proprio, cioè l'annuncio del Vangelo. Arisi Rota convergenza tra cattolici liberali e intransigenti, sì, mi pare che indubbiamente, insomma, ecco, su alcuni punti qualificanti ci sia questa convergenza. Cioè, faccio un esempio che non ho fatto rapido, però che credo aiuti a capire. La recensione di Civiltà Cattolica del Liberatore al libro dell'Audisio è una recensione molto critica su diversi punti, in particolare gli aspetti ecclesiologici che appunto Tragnello ha messo in rilievo molto bene. Dunque c'è una critica molto, molto forte, molto dura. Su alcuni punti però il Liberatore accetta l'Audisio, e in particolare su che cosa? Sulla tesi dell'Audisio che la società contemporanea, se vuole salvare inevitabilmente avviata, deve prendere i valori di libertà, fratellanza ed uguaglianza. Cioè i valori della rivoluzione debbono diventare valori cristiani. A me fa venire in mente appunto la tesi: o la democrazia sarà cristiana o non sarà. Su questo punto c'è convergenza tra il Liberatore e l'Audisio. Naturalmente poi il Liberatore fa molto di più, l'Audisio fa molto di più, cioè per l'Audisio la rivoluzione francese è in qualche modo i valori di libertà e di uguaglianza sono valori evangelici. I valori della rivoluzione francese sono in sé valori evangelici, valori che sono derivati dalla presenza nel Vangelo della storia. Questo il Liberatore non l'accetta. Però, insomma, il Liberatore è disponibile ad accettare anche un ordinamento di carattere democratico, a condizione che questo ordinamento sia un ordinamento cristiano. Che cosa vuol dire a condizione che un ordinamento sia un ordinamento cristiano? Vuol dire che la Chiesa goda di alcuni privilegi, sostanzialmente. Ecco. Ringrazio Vandrusca per il richiamo alle persone, che sempre è un richiamo molto opportuno, che le idee non camminano in aria, ma camminano sulle gambe delle persone. Ecco, grazie. Grazie. Beiden so interessanten Staaten bzw. Staatengebilde Österreich und die Schweiz hören zunächst Herrn Kollegen Wolzelka von der Universität Wien, der sowohl Studien zur Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, vor allen Dingen zu Kaiser Rudolf II., wie